e il regista di questa disgraziata trasmissione va a recuperare un audio per mettermi alla berlina. Ma inchioda cosa se l'ho fatto due mesi fa questa al roba? Tuo cambio di opinione repentinamente, come cambia l'umore della gente. A parte che cambiare le opinioni non è una follia in generale. No, ma è la dimostrazione del sovranismo. Ma non è mai andato in onda. Ma non è mai andato in onda. Ma la destra italiana, ma sia nei giornali che nelle radio. In questo cazzo di spot. E tu ne sei... No, lo voleva fare Barisoni. Era ottimo quello spot, infatti, ma in quel momento il sentire era questo. Oggi sta cambiando il vento e tu, anziché seguire la linea editoriale della radio e del Confindustria, ti sposti perché senti che il vento tira da un'altra parte. Ma allora io dici? Mi domando, è compatibile questa trasmissione e questo signore con la linea editoriale del giornale della radio? Lo domando anche per me stesso, che purtroppo in vero ne faccio parte di questa giostra, di questo carrozzone immondo che oggi è arrivato finalmente al venerdì. Siamo compatibili con gli obiettivi che questa azienda si dà? Lo chiedo con sincerità. Se tu dici parlare del buco del culo, parlare del buco del culo. Sì, e dello sbiancamento anale, non volevo entrare. È compatibile con la mission, dici? No, esattamente la domanda che faccio contro il mio interesse, per carità di Dio, voglio che sia molto chiaro, molto mettendo a rischio anche la mia vita futura, sì, visto sì, che sì. mi scade il contratto a fine luglio. Vabbè, non so quello più che è, sì. Però, insomma, quello diciamolo. È compatibile questa trasmissione con gli obiettivi di un gruppo che si chiama Sole 24 Ore moderata, SPA, di un'Italia moderata, ma di un'Italia che lavora, che vuole ragionare, che vuole capire la complessità dei fatti e delle cose? È compatibile tutto questo con queste due ore di trasmissione fatte e realizzate in questo modo? Lo domando, question mark, come dicono gli inglesi, question mark. Ma sei bipolare, question mark. Sembri bipolare, sei incredibile. Sembro. Lo so, però cosa vuoi che ti dica? Via Monterosa 91 20 149 Milano, eccoci qui, eccoci qui. Collegamento sempre da un posto segreto, mi segnalano, località mi segnalano. Segreta, località così, segreta, fino a lunedì, fino alla domenica, Segreta, località segreta, non comunicabile per motivi di polizia, diciamolo subito, per motivi di polizia. Non per motivi di polizia. Per motivi no, di polizia. Motivi... Diciamo la verità, adesso la dico tutta perché mi hai rotto il cazzo. Polizia. Perché questa è incredibile la diffamazione tra conduttori cui si arriva. Quale sei in un posto dove non potresti stare, diciamo la verità. No, ma non sì, è vero. Sei in un posto dove non puoi stare secondo la legge. Ragazzi miei, intervenite. Andate, lo dimostrerò in lunedì con le carte. Sì, nelle carte. Ma no, ma quale prati? Dimostrerò non per tabulas, puoi stare, per non puoi stare dove stai. Certo che posso stare in base al DPCM. Perché non lo comunichi? Perché voglio che rimanga nell'anonimato. Sei non voglio che la gente qui intorno sappia che c'è in onda la Zanzara da qua. Non voglio, non voglio che la gente sa. Mi vergogno, voglio uscire di casa tranquillamente senza alta. Che la gente ormai a come testa a testa alta, esatto, senza gente che mi fa domande sugli sbiancamenti anali, gente che mi fa domande sui nazisti, sui fascisti, su quelli che pisciano, non si capisce, e bevono la loro urina. Non voglio in questi due giorni avere persone che mi fermano per strada su questioni di questo a tipo. A proposito, per la tua gioia, la signora Giorgia Meloni ha detto che Giorgio Almirante fu un grande patriota statista, statista. Molti statista hanno rinfacciato adesso la signora Meloni. Ti credo. Era brutto fascista, era fascista. No, ma che brutto, ha combattuto a fianco dei tedeschi, tutto qua. Poi fate voi, a Salò, era un combattente di Salò. Non c'è dubbio. La difesa della razza, vedete voi, poi dopo va benissimo, è stato deputato, certamente. Ma è viva, è viva. Iniziamo è viva. Con governatore del mondo. Ragazzi, sapete quanto adoro il governatore del mondo? Io no, sapete quanto adoro De Luca, eccetera, il suo piglio, il suo autoritarismo. L'avrei visto tranquillamente al posto di comando, tipo al posto di Brusaferro, di un Brusaferro qualunque, a comandare le operazioni. Brusaferro, insomma, al posto di Conte, diciamo la verità. Con De Luca saremmo usciti molto prima da questa situazione. Secondo me, secondo me. Però ragazzi, adesso non è che puoi rompere i coglioni, meno alcol, meno pasticche. Questa è una trasmissione libertaria, questa è una trasmissione aperta a tutto, in cui ognuno può fare il cazzo che vuole. Non diciamo mai meno pasticche, meno alcol, certo, diciamo che non bisogna drogarsi, non bisogna farsi eroina, di cocaina, però se qualcuno si vuole fare, sono cazzi suoi, non è che facciamo i proclami. Qui non si fanno proclami contro qualcosa. Contro qualcosa, contro le generici contro le droghe. Qui c'è grande libertà. Lui dice adesso, poi che cazzo c'entra meno alcol, meno. Il problema non sono meno alcol o meno pasticche, che può essere una cosa valida sempre. Il problema, casomai, sono questo cazzo di assembramenti di movida. che trovo anche ridicoli adesso questi attacchi dei sindaci. Ho saputo che a Vicenza ridicoli. A Vicenza hanno chiuso gli aperitivi all'aperto. Hanno chiuso gli aperitivi. Cioè, non si possono fare aperitivi all'aperto. Purtroppo. Cioè, tu li puoi fare dentro il bar, dove è più pericoloso. Dentro il bar ti puoi assembrare in 40, no, in 20. Per carità, dai, e quello diciamo succede. Se non puoi stare fuori, diciamo puoi stare dentro, quello succede. Dentro è peggio, fuori è meglio. Appello alle persone, alle cittadine, alle cittadine, ai cittadini, alle ragazze e ai ragazzi. Usate il buon senso, divertiamoci ma con il buon senso. Ma cosa vuol dire? Ma questo che roba è il messaggio che una radio responsabile, no, una radio è responsabile, una trasmissione responsabile. Ma questa non è dire. Irresponsabile questa trasmissione, lo so, è irresponsabile. Ma ripeto, allora il quesito e la domanda: è compatibile tutto questo con quello che produce ogni giorno l'ottimo Sole 24 Ore e l'ottima Radio 24? È tutto quello che fanno gli imprenditori per il nostro paese, è compatibile questo? Io ve lo voglio chiedere a braccia aperte, con il mio cuore, in, cuore mano. In mano, è compatibile? È compatibile tutto questo? Nel corso di questi anni dobbiamo avere l'onestà e il coraggio di dirlo anche a tanti giovani. Sono andati crescendo comportamenti irragionevoli. Vabbè, però... È cresciuta una massificazione alienante. Ma che c'è? Anche però? Per il divertimento, per la socializzazione. Dobbiamo cogliere questa occasione per avere di sera meno droga, meno pasticche, anzi nessuna pasticca. Dobbiamo cancellare l'abitudine a rincretinirsi con l'uso di superalcolici che mandavano nelle nottate fra sabato e domenica in coma etilico decine di ragazze e ragazzi di 13 anni nei pronto soccorsi dei nostri ospedali in coma etilico a 13 anni. Però io, va bene, De Luca, caro amico mio, ma adesso questa cazzo c'entra, beh, c'ha ragione, ma cosa cazzo però, c'entra col coronavirus, però, amico mio? Ma non è che uno può fare la predica contro l'alcol, a parte che, voglio dire, anche se la fa De Luca la predica contro l'alcol, i giovani non gliene frega un cazzo, con tutto il rispetto, beh, del governatore del mondo. Ragazzi, però, di 13 anni, no, scusi, governatore, è una piaga sociale. Senti Fra Parenzo. Cosa vuoi fare, Fra Parenzo? Vuoi fare gli appelli contro l'alcol? Ragazzi che sono fuori da scuola. Ma che la dici? Scuola ma che al c'entra sud è l'unico presidio cosa di legalità c'entra? No, la scuola al sud è uno dei Fra rari Parenzo, presidi zitto, di legalità. Ma perché non ti candidi? Ma candidati, no. La vendita di superalcolici, cioè di porcherie che bucano lo stomaco. Ma chi l'ha detto? Ma dipende. Ma... Di prodotti provenienti da non si sa dove. Ma non è vero. Anche ma... per comportamenti irresponsabili di gestori di questi bar, che pur di guadagnare 10 euro in più, non hanno esitato spesso a rovinare la vita dei giovani. No, però scusa, adesso vuole vietare i superalcolici? Ma va bene, per carità, vietiamoli pure. Ma di che parliamo? È già vietata la vendita ai giovani. Ma che c'entra? Lui sta parlando in generale di giovani. Ma che vuol dire? Ma se, certo, è chiaro, se un tredicenne uno gli dà una cosa, un tredicenne è un criminale. Un whisky a un tredicenne, un cocktail. Ma grazie male, al cazzo, meno non è che male. Ci vuole De Luca per dirlo, però, amico mio. Ma che c'entra? Dovremo riprendere anche queste attività, per adesso no, finché non avremo forme di controllo anche serio ed effettivo da parte delle forze dell'ordine. Stanno sanificando il negozio, il mio centro estetico, il mio salone, iniziano dalla pavimentazione. Ecco. La Zanzara. La qualità dell'audio è pessima. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. La proposta di Eli Brandi mi ha veramente fatto cadere i coglioni, cioè noi siamo in mano della gente del genere che fa quelle pensate qua, cioè mettere fuori da un hotel il cartello Covid free, un idiota totale, cioè punto numero uno. lo straniero che legge il tuo cazzo di cartello appeso all'hotel vuol dire che è già arrivato in Italia, è già arrivato davanti all'hotel, quindi se ne è altamente battuto a priori del coronavirus, punto numero uno. Punto numero due, cazzo, cioè, pensi che veramente un cartello serva a evitare la catastrofe? Cioè, è come dire a un minorenne che entra in un sito porno, clicca sì se sei maggiorenne, secondo te quel coglione del minorenne ti scrive di no? Ti dice di no? No, ti dice sì, sono maggiorenne. Ma dai, su, Librandi, ma vai a fare, ma vai a zappare la terra, vai a zappare, va che meglio, coglione. Noi, Alessandro Primo. Ragazzi, ieri sera ho assistito a una scena incredibile, sì, incredibile, indecente, indecente. Un po' debole. Un deputato del partito Italia Viva, dopo essere stato deputato di varie formazioni politiche, diciamo, essere stato anche con Berlusconi, tal Librandi, no, Gianfranco Librandi. Ha detto. Lo avete scannato ieri no, sera. No, l'abbiamo scannato, ragazzi. Ma uno a un certo punto tira fuori un cartello dicendo che gli alberghi devono mettere una roba una fuori. Follia, gli alberghi, o non so che cosa, gli esercizi cartello, commerciali, vabbè. Che ho scritto coronavirus free. Ma che cazzo è sta roba? Coronavirus free. Molti dicono un'operazione commerciale per dare un'altra di marketing, per dare un'altra immagine dell'Italia. Va bene, per carità, può essere anche. Ma che roba è? Ma non è che c'è. Ma ti denunciano. Ma coronavirus free di che? Ma chi lo dice che sei coronavirus free? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Gli stranieri, i tedeschi, gli austriaci, eccetera, eccetera, vedono l'Italia come un posto infetto, perché soprattutto la Lombardia c'è un sacco di problemi di gestione di questo virus. Dobbiamo fare un protocollo e dare questo protocollo a tutti i nostri hotel, ristoranti, dove c'è scritto coronavirus free. Fatti. Vuol dire che noi garantiamo da domani mattina che le nostre strutture, facciamo dei video, facciamo una pubblicità, facciamo un'attività immediata, in modo tale che i cittadini austriaci. Librandi, non è che se metti il cartello coronavirus free. Ma cosa no, ho capito, allora, non è che uno mette il bollino coronavirus free e arrivano i turisti. Ragazzi, è indecente, indecente. Coronavirus free, il bollino. Ma ti rendi conto? Più indecente il gettone di presenza che ti viene dato per aggredire sistematicamente le persone nelle trasmissioni. Questa è la, e anche questo è compatibile con la missione che si dà alla radio. Tu devi andare in televisione a raccontare degli sforzi che fanno le aziende per riaprire, non attaccare gli altri. Cioè, tu sei a bordereau di una rete radio concorrente, ma è tutto sbagliato. Capisci? Cioè, a me sembra incredibile che tu lo possa fare. Lo dico anche mi contro vuoi il mio impedire interesse. Di andare in televisione. Ma adesso è una cosa incredibile. Cioè, tu vorresti che mi impedissero di andare in televisione? Sì, questo giustificherebbe il fatto che tu sei un inviato, no? Perché questo sei tu. Palle, e che quindi vieni inviato in televisione. Vieni inviato. È una cosa incredibile. La tua situazione contrattuale, io lo dico con sincerità, andrebbe rivista completamente. Ragazzi, una buona notizia. Anche... una buona notizia. Susanna della Salaria, la puttana della Salaria, in bicicletta, mi comunica. Il comandante mi ha dato il via libera, che ne so, evidentemente è andata alla caserma dei carabinieri, il comandante dei carabinieri, pare. Ma figuriamoci, alta diffamazione. No, ma che diffamazione? Altre cose. Ma allora, ti pare che un comandante dei carabinieri possa dare il via libera? Il messaggio è questo: sono andato dal comandante a dirgli della multa e che non potevo più andarci. Mi ha detto: la multa la devi pagare, la multa che le hanno fatto. Incredibile la multa. Ma puoi andare tranquilla. Oggi sono tornata regina. Applausi, applausi a questo, se è vero, a questo comandante dei carabinieri. Che certo, in maniera un po' inusuale, ha autorizzato una puttana, una prostituta, a stare tranquillamente in un posto di lavoro. Però sì, quello è un posto di lavoro, un luogo di lavoro, dovresti considerare come tale. La Salaria è come via Monterosa. Cioè, adesso, le sì, ma assolutamente. Come si fa? Ma la come Salaria si fa? È come via Monterosa 91. Ma ragazzi, ma è così. Ma come si fa a paragonare la sede disegnata da Renzo Piano e dove ha sede il più importante quotidiano economico del paese con una via di Roma dove battono delle prostitute? Ma, certo, ma come si fa? Ma certo! Ma ve lo richiedo ancora, è compatibile tutto questo? Ma scusami un attimo, cioè, ma perché quello non è un posto di lavoro? Formalmente è un posto di lavoro, che posto la Salaria di lavoro dove è? Batte è un posto Susanna dove si commette altre, un reato, Roma. Peraltro. Ma quali reati di che? La prostituzione che non è lo sfruttamento reato, impara, della prostituzione. Impara, impara. Non è, no, lo sfruttamento è un altro discorso. Quello là è un posto di lavoro, via Salaria è come via Monterosa 91. È un luogo di lavoro che va protetto. Bravo al comandante dei carabinieri che ha autorizzato Susanna, la prostituta, a tornare lì sulla Salaria. Sono contentissimo di questa cosa, certo, un po' informale. Lavoro tutto abusivo, però peraltro. Ma certo, in nero, ma naturalmente, ma certo, in nero. E qui si fa anche l'elogio del lavoro nero e avanti così, insomma, dai, e avanti così. Porro, noi facciamo le vacanze dove ci pare. Ora, ti pare normale a te che il presidente della regione Sardegna, già l'abbiamo accennato ieri, ma è ancora, mi rimane ancora qui il presidente della regione Sardegna. Io sì, voglio bene il presidente della regione Sardegna, perché comunque è un personaggio sui generis, ma non si può dire noi qui ci vuole il passaporto sanitario anche per arrivare in Sardegna. Ci stanno pensando, ma è una follia. Faranno dei test, ma passaporto alla saliva. Ma faranno dei test alla saliva per evitare che tutti coloro i quali hanno le seconde case, in particolare dalla Lombardia, vengano a portare il virus in una zona che oggi sì è covid free. Perché la Sardegna pazzi. È la regione italiana che ha il più basso oggi numero di contagiati, sì, più basso tu lo sai che in secondo, tutte le regioni secondo d'Italia, il più basso. Tu lo sai che secondo... E io ti scateno il popolo sardo contro. Io te lo scatenerei contro. Ma il popolo, popolo sardo che quelli ci ascolta alla radio. Senza turismo sono morti, finiti. E quelli, il presidente dice che c'è quelli, il passaporto sanitario. Quelli hanno una sanitario. Dignità, una storia delle industrie. Senza poi hanno l'industria del turismo, ovviamente. Sono finiti, dai, quello rompe le balle. Certo, ma che male c'è col passaporto sanitario? Il passaporto. Non esiste il passaporto, non esiste l'ho, il passaporto l'ho studiata sanitario. Oggi la pratica, test alla saliva. Questa è una delle proposte, costo 25 euro che la regione Sardegna risarcirà con dei buoni da spendere sul territorio. Fate le vacanze in Italia. Oh, ma come ti permetti? Ma come fate le vacanze in Italia? Ma è stupenda. Stiamo parlando dell'autarchia delle vacanze. Cioè noi adesso per esempio non possiamo andare in Grecia, oppure non possiamo andare... Cioè, ma che vuol dire fate le vacanze in Italia? Noi facciamo le vacanze fino a prova contraria dove ci pare. Allora, quello è un invito di Conte, voglio dire, un invito a fare la vacanza di cui veramente le persone se ne sbatteranno i coglioni, perché se uno vuole andare in Spagna. Cosa vuoi che faccio, presidente del Consiglio? Se non l'avesse fatto, la destra gli avrebbe detto: ecco, non difende l'Italia, lo fa e lo attaccano. Siete incredibili. Io dico solo due parole: siete incredibili. Siete incredibili. E poi soprattutto verrebbe da dire a Conte: facciamo le vacanze in Italia dove? Prendiamo il passaporto sanitario per andare in Sardegna, quest'altra grande, geniale intuizione del presidente leghista della Sardegna. Emilio da Bergamo, vai, Emilio da Bergamo, è incredibile, infatti, incredibile. Emilio da Bergamo, il presidente vai. Leghista della Sardegna. Emilio da Bergamo, ciao Cruciano, ciao Pareto. Vai. Allora, secondo me è giusto comprare italiano. Ma che vuol dire anche sta roba? Io compro dove mi conviene, scusami, che cazzo me ne frega? Vado su Amazon, compro una cosa, me ne sbatto i coglioni dove è prodotto. Andare in ferie in Italia e vivere all'italiana. Guarda, cioè, posso dirti una cosa, vivere all'italiana, che cazzo vuol dire vivere all'italiana? Una puttanata. Vuol dire evadere le tasse, avere politici del cazzo, vuol dire avere delle istituzioni che valgono poco. Vivere all'italiana è bellissimo, capito? Sì, vabbè, cioè, ma questa va bene, l'ironia, tutto. No, va bene, sì, è così. Ho capito, ragazzi, anche questa cosa di comprare italiano, oppure lo dico anche contro quello che ho detto, che si fa in una cosa che non è mai andata in onda, mai. Tu che sei meno male. Sì, lui adesso dice populista. Diventiamo un po' populisti, no? Giustamente facciamo, cioè stiamo in Italia prima gli italiani. Ma non è questione di populismo, qualcuno. Non è questione compriamo di populismo. Italiano, allora e intanto no, vogliamo che i turisti vengano in Italia. Ma ragazzi, ma di cosa state parlando? Fermi tutti, fermi. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Il segnale orario vi è offerto da... Formaggio Gran Moravia. Bontà, convenienza e tradizione. La Zanzara. Sì, io vedo molto negativo. Della tua bella infanzia. Ciao Parenzo, forse preferirai la versione inglese della parola oro anale, che sarebbe ATM, ass to mouth. Pensaci anche quando vai a prelevare i soldi in banca. Così, tanto per precisare qualcosa a Covid Parenzo, Malena Pugliese non è che votava PD, era del PD, capito? Non ho altre domande, vostro onore. Io sono lo storico amico di Parenzo, perché una testa di cazzo così è un comunista, un fascista, ce l'ha su con Salvini, tu sei un cretino imbecille. Rispetto a Salvini di fare le vacanze in Italia, sicuramente questo miserabile di Cruciani avrebbe levato scudi per difenderlo. Miserabile! Questo è veramente un coglione, cioè questo qua non ha ancora capito qual è lo spirito di questa trasmissione. A me non me ne frega un cazzo vacanze in Italia, chi lo dice, chi non lo dice, dico semplicemente quello che penso, una puttanata. Quando quel criminale di La Corte, però, hai ma fatto quando anche quel uno spot, ma non l'ho fatto, non è mai andato in onda. Che avevi, non l'ho fatto, ma no, adesso l'ho fatto, non ma non, l'ho è fatto. Mandato, non è avete andato in onda amici, per fortuna. Non l'ho fatto, come Rubi Rubacuori, nipote di Mubarak, siete uguali, siete. Adesso hai detto non ho fatto lo spot, sentiamo lo spot. No, allora aspetta, mi dicono, aspetta, mi dicono non c'è adesso, mi dicono che lo programmeranno. Allora dirò ufficialmente a signor Barisoni di togliere quello. Beh, certo, non posso dire una cosa che è una puttanata e dopo e in onda uno spot. Di chi era il nipote? Ma due mesi fa, ma che c'è? Ma due mesi fa cosa siete? Sei incredibile. Ma le cose cambiano in due mesi, è una puttanata. Le cose cambiano, ma Rubi non rimane sempre la non nipote di Mubarak. Ma lo dico per voi sovranisti. Rimane sempre la non nipote. Ma dillo a Sallusti, che c'entro io? Ma dillo a Sallusti, dai. Io in qualche modo gliel'ho detto, mi pare. Allora, ragazzi, la cosa fondamentale è questa. Questo spot mi è stato ordinato dal signor Barisoni. Vuoi fare una cosa no, di questo ordinato. Tipo? Beh, facciamo. Barisoni non rega. Ordina mai. Tanto io ti dice, no, ordinato, tra virgolette. E, tanto io vado sempre in Italia, lo faccio, andiamo in Italia, così. Che cazzo ne tanto so? Non spendo mai, vado sempre ospite a casa di gente, quindi no, non ma che cazzo mai. Dici? Ma sei pazzo? Allora, mai, l'ho fatto. Mai, per mai, fortuna mai. Non è andato in onda, perché poi è successo il casino, eccetera. Non mi ricordo, era la settimana in cui riapriamo tutto. Ragazzi, quella mia voce, adesso lo dico ufficialmente, tanto mi ascolterà, sta forse qui in ufficio, non andrà mai in onda. Ti giuro, se va in onda quella roba lì, tagliatemi il pisello. Cioè, non va mai, non può sono andare in onda. Sono disposto a sostituire Cruciani nel promuovere le bellezze e le industrie del nostro paese. E trovo vergognoso questo retromarcia che hai fatto dopo aver preso soldi per aver registrato no, uno spot. No. Lo trovo. Ma vabbè, quale intanto abbiamo detto. Vabbè, capito, intanto abbiamo fatto piccola diffamazione, così abbiamo detto. Intanto, mai è detta, dai, la rotativa è stampata, via, è andato ormai il giornale Librandi rotativa. Contro via. Centinaio, sentite, Librandi contro Centinaio. Ieri ma sera. Che sfide sono, che sfide sono. Dove lo attacca sto Grandi coronavirus lì, Librandi? Stasera si è fissato col... Guardi, lo attacco fuori da tutti gli hotel, da tutti i ristoranti, perché non abbiamo ancora capito che gli stranieri non vengono in Italia perché ci sono quelle persone, alcune che c'ha di lei come ospiti. Ah, è colpa di Cruciani, è colpa di Centinaio. Germania. Sì, è colpa mia. Parlano male dell'Italia, poi non parlano sanno male gestire ma la ascolta, sanità ma... Librandi, e quindi ma tu sai che lavoro faccio io? Additati come un paese, ma però tu, grazie al cielo ci sono anche lavoro. Gli altri, no? Non solo i leghisti. Ma tu lo sai che quindi noi attacchiamo faccio. Questo ma cartello che, ma tu lo sai che e diciamo ma tu lo sai che io rispettiamo il protocollo. Ma di che cosa stai e dicendo? Possono, sì, lo so che... Ma so conosci che la materia come io conosco la fisica nucleare. Fino adesso abbiamo dovuto lottare contro per chi? Sistemare i disastri che avete fatto voi in Lombardia. Ma cosa stai dicendo? Le ma ascolta Librandi, ma vergognati di quello che stai dicendo. No, scusa, ma vergognati di quello che stai dicendo. Visto che sei anche della Lombardia, dovresti vergognarti di quello che stai dicendo. Avete rovinato l'Italia. Di quello che stai dicendo. Abbiamo rovinato l'Italia. C'è in mente Bergamo, c'è in mente certo. I camion con i morti. Io invece mi ricordo Zingaretti che ci diceva di andare a fare gli aperitivi. dalla testa. Zingaretti che è venuto a Milano a fargli aperitivi e cuore. Calmiamoci un attimo. Carmine da Salerno, vai avanti tutta. Carmine, dimmi, dimmi. Oh, Carmine. Porca miseria, neanche stavolta. Stai tranquillo, pronto. Carmine, chi c'è qua? Chi era prima? Chi era prima? Stefano, chi era? Chi era? Carmine, chi era? Porca miseria, nemmeno stavolta. Chi era? Sono che protestava? Carmine, vado. Aspetta, Carmine, chi era che protestava? Walter da Rimini, Walter. Da Rimini, sì. Sì, dimmi, Walter, aspetta, sì, Carmine, Walter. Che c'è Walter che sta no, friggendo. Volevo dire, perché nessun politico parla dei soldi che risparmia lo Stato e di oltre 30.000 vittime che non ci sono più, che non deve erogare la pensione? E poi Ari Brandi, per me, ha la testa come Parenzo. Però continua a parlare dei rubi. Che sì. Cazzo vai a parlare di rubi? Che ce ne frega di rubi a noi, che ce ne frega, bravo Walter, vai, no, all'attacco. Vai all'attacco di Parenzo, vai all'attacco, semplicemente non un modo per inchiodare, proprio un somaro, guarda, non sa cazzo altro dire. Era semplicemente un modo per inchiodare Cruciani alle sue contraddizioni, ma che prima fa lo spot per il turismo e poi torna destra. Indietro, capito caro amico? Hai capito, Walter, caro amico? Ma faceva la prostituta a casa sua, tu che ascoltavi a parlare di quella rubi. Ma che ce ne frega a noi, a 10 anni dopo, 15 anni dopo, che ce ne frega a noi? Polemica con Sallusti, che ce ne frega? Scusa, non ho capito quella cosa che hai detto prima. Sì, c'è sì, lo Stato. Lo... Dai, chi è? Ti saluto. Aspetta, Walter. Walter, aspetta un attimo. Allora, voglio capire una cosa. 30.000 morti, 30.000 morti. Dunque, lo Stato che cosa dovrebbe non fare? Non erica più le pensioni a questa gente capito, che è morta. Ho capito. E quanti soldi risparmia? Ma ho capito, ma che vuol dire? Cioè, e allora? No, e allora dico, perché non danno i soldi ai cassi integrati, che aspettiamo noi i soldi? Quello è gravissimo, quello è gravissimo, Walter. Tu dici allora, lo Stato, hai capito Parenzo, lui sostiene che lo Stato con la morte di un sacco di persone... Sei furbo te, e tutte le leggi che ho fatto, chi le prende? Il 110% sui rinnovi dei locali, chi li prende? Chi li prende? Che la gente li prende, che ha i soldi per fare i lavori? Che tragedia, non... che tragedia, che sei, tragedia. Sei il coglione, sei furbo da ridere. Che sei uomo, come quelli che, dello Stato, che tragedia. Furbi, di uomo, che tragedia, sì, sì, di sì. Uomo, che tragedia, che tragedia, ma lascia perdere, che tragedia, che tragedia, che tragedia, ogni volta saluti aspetta. E non saluti, chiudi, non rompere i coglioni, ti saluto, chiudi, no, anziché dire ti saluto e puoi rimanere, chiudi, ma chiudi, se dici ti saluto, ma come fai che hai 10 minuti che dici ti saluto e non saluti, chiudi, somaro d'un somaro, uno che vuole salutare, saluta, non sta altri 20 minuti al telefono. Somaro d'un Walter, ti saluto, però lo guardi, sempre il Parenzo in televisione, lo guardi sempre. Però scusami Walter, voglio capire una cosa, Walter. Ti saluto, e allora se dici ciao. Ti saluto, chiudi, ciao, appunto, ciao. Ciao, chiudi, ciao. Andrea da Torino, anzi no, chi c'era prima? Carmine da Salerno, vai Carmine, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi ciao. Carmine, dimmi, dai, vai, veloce. Volevo dire a Parenzo, col quale mi trovo quasi sempre d'accordo, devo sì, dire, sì, che sì. Inizio trasmissione ha detto che al sud sì. I ragazzi fuori dalla scuola, sì. Unico presidio di legalità. Ma no, sì, che puttanata è? Ma sono le puttanate certo. Di Parenzo. Spesso, dai, spesso al Parenzo. Sud, spesso al sud la scuola è l'unico presidio di legalità. Prova a immaginare questi ragazzi. Hai detto l'unico. Sì, vabbè, d'accordo. Prova a immaginare questi ragazzi di Scampia o di altri quartieri popolari che prima del Covid andavano tutti a scuola e venivano portati a scuola perché anche gli insegnanti facevano un grande lavoro e oggi si trovano improvvisamente da mesi in mezzo a una strada. Questo era allora, il ragionamento. Ascolta, dato che il una cosa non è solo, che lei può non verificare. Questo è evidente. Scambia. È chiaro. Anzi, io conosco l'Italia dalle Dolomiti a Trapani, la conosco da 40 anni. Ma comunque anni dire che la scuola è un presidio di legalità mi sembra una cosa talmente ovvia che dovrebbe con la quale dovrebbe concordare detto, pure lei. No, va benissimo. Lei ha detto è l'unico presidio. Beh, vabbè, sì, ma chi uno se ne frega, presidi, dai, Francesco, sì. Da chi se ne fotte, dai, di queste cose, l'unico presidio. Andrea da Torino, vai, Andrea, dimmi, Andrea. Allora, riflettiamo su questo, apriamo la discussione. Pronto? Dimmi. Ma quale discussione? Ma volevo dire una cosa, che nessuno ha fatto una constatazione. Sono mai passati 20 giorni da quando hanno fatto i libri a tutti il 4 maggio e ci hanno fatto una testa così. State attenti che aumenteranno i contagi. Invece i contagi sono diminuiti, soprattutto al centro-sud. La mia domanda è, ma non potevano aprire molto ma molto prima il centro-sud, almeno un mese prima. Sì, vai alla dire a De Luca, amico mio, vai alla dire a De Luca. Ma me non frega niente di De Luca. Ho capito, ma quello col cazzo che avrebbe aperto lo stesso, cioè, vabbè, quello teneva allora, tutto sigillato lo stesso. Ma che paura c'ha? Perché non gli danno i soldi lo Stato? Ma non lo so, non voleva aprire per precauzione, per quello che... Per precauzione, certo. Il Covid si è fermato per tutelare i suoi cittadini. No, no, ma Andrea ha ragione, però. Cioè, Andrea formalmente ha ragione. Cioè, nel senso, abbiamo trattato l'Italia come... Scusate, io vi faccio una domanda. Il 15 febbraio c'era già il Covid a Milano, ok? Milano-Roma è una delle tratte maggiori. Per 15-20 giorni si sono spostati i cittadini di Milano a Roma e non è successo un tubo a Roma, ok? Ti ricordo che in pieno Covid si è giocata la partita Atalanta-Valencia, in pieno Covid, ti ricordo. Queste le porcate che sono state fatte. Ma sta dicendo un'altra cosa. Le porcate fatte. Quindi ha fatto benissimo quello a chiudere la regione. Il 16 febbraio, nel pieno della pandemia, quando si sapeva tutto della pandemia. Il governo si al limite lo sapeva, ma che dice questo tutto. Pazzo? Sì, vai a vederti i giornali e voi avete continuato a far giocare successo. Le partite di calcio Atalanta-Valencia. Ma quello è febbraio, non dire cazzate. E riprendiamo gli audio di quando tu dicevi che non... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Crociani, Porro, siete dei coglioni. Semplicemente un giovane magari può essere anche un portatore sano del virus, testa di cazzo, puoi andare a casa, andare dal nonno, trovare il nonno e appiparglielo. Brutta testa di cazzo, te e quel coglione di Porro. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Allora subito Silvio, no, eravamo ancora Andrea da Torino, mi sembra. Andrea da Torino, vai Andrea, dimmi Andrea. Comunque è uscito, ragazzi, no, ha buttato giù Silvio da Varsavia, ottimo. Ciao, dimmi. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Allora, io volevo parlare un attimo del concetto che tu ogni tanto sviluppi della puttana. Cioè, il concetto di puttana nelle varie concezioni. Beh, certo, sì, sì. Puttana nel giornalismo, no? Tu dici puttana nel giornalismo e anch'io sono una puttana del giornalismo. Ma siamo tutti puttane, come da titolo di un famoso... Siamo tutti puttane, dai, su, chi vende il proprio corpo, chi vende la propria voce, puttana. Chi vende questo... Tu e Parenzo siete delle puttane. Ma perché tu che fai? Che mestiere fai? Non si permetta, ma non si permetta. No, ma se mi fai spiegare il concetto te lo dico. Perché tu hai un concetto nobile di puttana, diciamo. Io? Allora, io sì, personalmente sì, però come comunemente intesa, cioè la puttana chi è? Quella che vende il suo corpo per soldi ed è considerata una cosa, diciamo, non troppo, come dire, non è una cosa non riprovevole. Vabbè, è una cosa un po' disdicevole, sì, dalla morale comune, eccetera. Allora? Perfetto, e quindi lo fa per questo per soldi e quindi è puttana. Quindi se noi trasliamo questo concetto in altri settori, che dobbiamo dire che il giornalista che si dice puttana del giornalismo è un giornalista che prende i soldi allora? E viene pagato e quindi voi siete delle puttane, però cioè non il concetto di puttana che tu dici che è una cosa positiva, non è una cosa positiva, perché come inteso no, ma è una cosa positiva, ragazzi. Io prima ho detto via Monterosa 91 e via Salaria a Roma sono luoghi di lavoro, in questo senso lascia perdere la concezione di puttana se è positivo, negativo, eccetera. Per me fare la puttana è come un altro mestiere, ma ho capito, ma qui ragazzo mio, qui si lavora, lì si lavora, sì, è un luogo di lavoro, sì, la prostituzione non è illegale in Italia, fare la prostituta non è illegale, purtroppo è illegale un'altra cosa, purtroppo no, lo sfruttamento chiaramente va bene che sia illegale, purtroppo non è regolarizzato quel lavoro, dunque stare sulla Salaria non è di per sé una cosa che è contro la legge, tant'è che oggi il comandante dei carabinieri, non so di dove, ha detto a quella ragazza, amica nostra, ragazza insomma un po' stagionata, però pur sempre ancora valida, la signora Susanna della Salaria, che può andare a fare il suo mestiere, che non è interdetto a fare. Però io quello che ti volevo dire, che quel concetto si addice particolarmente a voi, soprattutto a Parenzo. Tu consideri, consideri Parenzo una puttana, dici? Ma no, ma in quel senso che è fazioso. Sei una puttana, caro Davide. Secondo Silvio da Varsavia sei una puttana. È fazioso, perché lui non è... obiettivo in quello non che è... dice. Lui difende. Ma cosa vuol dire? Stefano cosa dalla provincia di Cuneo, vai Stefano, provincia cosa di Cuneo, vai Stefano. Cosa dici? Dimmi. Agricoltore senza getti, incredibilmente senza getti, incazzato nero con chi dice che noi non assumiamo gli italiani. Sì. Ma come facciamo ad assumere gli italiani? È una cosa impossibile in questo momento. E mi dispiace Crux, io ti metterei sindaco a casa mia, ma quando dici che conosci tanti italiani è una cosa che poi nei fatti, ragazzi, non si può fare. Io non lo so perché non si può fare, scusami. Ma perché il lavoro di raccolta dura 20 giorni, che cazzo fa un italiano 20 giorni che mi chiede quante ore al giorno? Noi facciamo 10 ore al giorno, io le 40 ore a settimana le finisco giovedì a pranzo. Solo chi ha lavorato nella terra sa cosa vuol dire. Cioè, tu stai dicendo terra. Che non c'è nessuno italiano, pochi italiani disponibili a lavorare per solo 20, per soli 20 giorni a quelle cifre lì, cioè, questo stai dicendo? Ci sono delle condizioni, perché la frutta non aspetta. Noi sabato e domenica non possiamo dirgli stai a casa. Se uno mi chiede, glielo dico, scappano tutti. Perché noi 20-25 giorni di raccolta quando iniziano le mele. Sì, però, sì. Poi, quello il discorso. No, Stefano, tu puoi anche avere ragione, però il problema è che io trovo, adesso, evidentemente l'offerta non è adeguata, perché ci sono un sacco di persone in questi giorni che scrivono che sarebbero disposti anche a fare quel mestiere lì. Cioè non è che adesso gli italiani di principio sono mal disposti rispetto al lavoro. Ma disposti, però ti stanno raccontando... Avevamo i minorenni quando ero piccolo, che faceva anche bene. Io ho 30 anni, a 14 cioè, anni lavoravo nei campi, faceva bene, non possiamo più farlo. Faceva avevamo bene far lavorare i minorenni. Ma lo dice minorenni non sfruttati con la frusta, dai, sì, su a 14 anni. Dai, Parenzo, io sono cresciuto bene, meglio di quello che dice fratelli, perché d'estate lavoravo sempre e mi ha fatto bene alla testa, mi è stato formativo. Non è sbagliato questo. Guarda che anch'io andavo alle volte a fare la vendemmia, allora, ma che c'entra? Ma roba, vuol dire, dai, mi divertivo pure, perché poi mi divertivo pure a... Vogliono che assumiamo proprio gli africani e noi siamo obbligati a assumere africani perché ci hanno tolto gli Ma nessuno vuole dare i soldi agli africani. Ma non diciamo stupidaggini, non diciamo stupidaggini. Questo fa l'agricoltore. Qui si parla di un altro settore, stiamo parlando di un altro settore dell'agricoltura che è anche molto specialistico, peraltro, come ti ha detto quell'imprenditore trentino, che non è raccogliere l'uva, ma potare le vigne, che è una cosa per cui devi formare delle persone. Gente che non sa niente di niente. L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina. Chi non indossa la mascherina è una bestia. Io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età. Andavano a correre senza mascherina. Quindi da oggi ma l'hai poi, fatto il gioco di De Luca? L'hai fatto il gioco di De Luca? No, il gioco di De Luca devi salire sulle pizze, prendere le mascherine, anzi fare i tamponi, fare i tamponi ed evitare i runner e Conte. Beh, è una cosa spettacolare. L'hai fatto o no? L'hai fatto o no? Fatto. Ieri ho perso 5 minuti, poi mi sono rotto i coglioni. Devi andare là, c'è De Luca che cammina, tu devi evitare i runner perché altrimenti muori. E evitare Conti, prendere i tamponi, praticamente fare un tampone e salire sulle pizze. Ma ragazzi, ma è... Mascherine alle farmacie. Io ho trovato spettacolare, ragazzi. La c'è qualcuno Campania, che non so chi è che ha perso quanto hai perso tu 20 minuti hai perso, cioè, la corte 20 minuti mezz'ora a fare sto bravi, a fare sta bravi cosa. Sul posto di lavoro bravi, fatto bene. Ieri notte altra cosa da segnalare, rigorosamente in orario extra lavorativo, tutti e due voglio difendere, voglio difendere anche il collega Pietro, lui non perde tempo durante il lavoro, ma anche la corte ci mancherebbe. La corte lavora con tutti gli uomini della Confindustria da sempre, numero uno. Comunque ragazzi, giustamente mi dicono che Algero l'altro giorno, quello che fratelli, eccetera, ci sono due cose da segnalare, due grandi novità, due grosse novità. La prima è che credo che la polizia sia andata a fare una perquisizione a casa per vedere se c'aveva quella pistola di cui ci ha parlato l'altro giorno. La seconda cosa di Algero è che giustamente, io me ne sono accorto, però in realtà non sapevo di che nazionalità era con, stava guidando con un'auto targata Repubblica Ceca. No. Sì, ti giuro. quella che ha fatto il botto, fratelli, era un'auto della Repubblica. E tu l'hai difeso. No, non l'ho difeso, lo diciamo difeso. Allora, ho io dico un'altra cosa: è compatibile un conduttore radiofonico che difenda un criminale? Non l'ho difeso. Sì, lo invita e difende un criminale che guida a 110 km all'ora, bada, facendosi anche un video, e una volta che fa il botto dice: fratelli, è compatibile con i valori che noi vogliamo diffondere attraverso questa prestigiosa radio? Intanto Paolo Becchi parla di totalitarismo, ci vietano l'assembramento. Paolino Becchi all'attacco, ci vietano l'assembramento. Vai. C'è qualcosa di più pericoloso che anche che quasi in assenza di virus bisogna assolutamente evitare? L'assembramento. Io mi chiedo, ma a che punto vogliamo arrivare con questo esperimento sociale? Non è che stiamo andando verso una direzione di autoritarismo, di totalitarismo? Poiché c'è il divieto, che non è né una legge, non si capisce bene cosa sia, un divieto suo, del sovrano dispotico che decide di fare quello che vuole lui, eccetera, vedremo. Non faranno più la manifestazione che sembrava programmata, non si capisce bene, lanciata comunque su Twitter, ci vediamo a Roma il 2 di giugno, perché Conte ha detto che c'è il divieto? Batte le mani come Spatalino. Spatalino, vai, tutto Francesco da Torino, vai, Francesco da Torino. Pensa a te, professore. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, sì. Volevo dire solo una cosa: per la prima volta nella vita sono d'accordo con Cruciani, perché Parenzo è andato oltre in questo tema. Secondo me De Luca ha detto delle cazzate clamorose. Ma sì, ma ragazzi, dai, ma che cazzo vuol dire? Meno alcol, meno pasticche, ma chi se ne frega? Dai, su, presidente della regione, non è che si deve occupare di alcol e di pasticche, della dai. Pasticca e dell'alcol, perché sembra che... sarà anche vero, ma non è che il presidente della regione... Ma lui ho capito, ha raccontato di alcuni ragazzi finiti all'ospedale. Ma chi se ne frega adesso? Ma guardate, devo dare un'altra cosa. Per la prima volta sono d'accordo anche con l'Appendino, il nostro sindaco. E che ha fatto l'Appendino? Oggi ha fatto un video dove appunto dava delle informazioni come comportarsi a noi giovani, cioè molto, molto responsabile, meno ha perso la mano De Luca con questi video, cioè noi giovani l'abbiamo fatto spopolare e non lo so. Affossatelo, me... adesso, noi affossatelo sul web, noi giovani noi l'abbiamo giovani, fatto spopolare, però è vero che è diventato molto popolare social, tra i giovani. Tutte le cose che prendete, anche il gioco, sì, quelli siamo noi, non è di certo la ma vostra tu sei uno era. Di quelli, siamo, sì, non c'è dubbio, ma sei uno di quelli che va a fare movida, casino in questi giorni, comunque si va... No, io guarda, in questo momento sono in una casa in campagna con tre miei amici, stasera ci mangiamo una bella pasta cacio e pepe. Bravo. Un litro di vino rosso senza alcol, pasticche. Bravo, perché la bottiglia di vino rosso se la bevono tutti, no? Sì, no, ho capito, però ragazzi, questa campagna di questi giorni, questa campagna di lascia perdere, questa campagna di questi giorni indecente nei confronti di chi va a fare quattro cose, perché io non ci andrei a fare casino davanti a un bar, non ci andrei a fare l'assembramento. Ma lo vogliono vietare e gli aperitivi all'aperto, il sindaco di Vicenza mi dicono da Vicenza che non è vero, in realtà che stanno facendo l'aperitivo all'aperto col distanziamento eccetera ma sono quattro casi del cazzo, dai, così, su, dobbiamo ripartire anche così, si impara dagli errori, non si può, cioè, no, abbiamo già imparato dagli errori Italia. Abbiamo già imparato, diciamo, il passato ciao, è mio, recente ciao, perché ciao, pochi ciao, mesi ciao, fa ciao, ragazzi, ciao. Poi De Luca non è tutto, c'è anche la campagna Cafone Zero, la campagna Cafone Zero, incredibile, bella questa è una bella, cazzo, bella campagna. Ma che vuol dire, governatore mi stai deludendo, niente moralismi, le cafonerie, ma è giusto quello, ma fammi sentire Cafone Zero, fammi sentire la campagna Cafone Zero. Per sviluppare non solo una campagna per avere l'epidemia zero, ma per avere anche cafoneria zero. Ecco, vorremmo far partire una campagna a questo punto anche di valore internazionale. No bur, no? Cafoni zero. No bur, ma che è no bur? Ma che è? Ma dove l'ha presa? Gli ha detto qualcuno? Per sviluppare non solo una campagna per avere l'epidemia zero, ma per avere anche cafoneria zero. Ecco, vorremmo far partire una campagna a questo punto anche di valore internazionale. No Boer, Cafoni zero. Ma che è No Boer? Ma che vuol dire? Vittorio Sgarbi, buonasera! Eccolo! Eccolo qui! Eccolo. Allora ragazzi, questa cosa qua, Vittorio, mi raccomando, questa storia qua dei sindaci che vogliono vietare l'aperitivo all'aperto dicendo che invece è consentito dentro, vogliamo dire qualcosa? Perché hanno rotto il cazzo, basta con queste puttanate per quattro giovani, per quattro casi in tutta Italia, Italia, dai, su, dimmi. Allora, è chiaro che hanno paura e cercano quindi di comportarsi in maniera tale da non correre rischi per tutto loro, anche diminuendo le responsabilità penali come volevano per le commissioni che sono legate al governo. È vero che noi dobbiamo sperare di avere un alleato del coronavirus che nell'arco di una settimana, massimo 10 giorni, se ne vada, quindi avremo un esercito schierato di mascherine. Però devo dire che De Luca, che ha una posizione che è connessa al temperamento di quanti in campagna vorrebbero essere liberi, quindi lui ha bisogno di dargli più ristrettezze, dice una cosa che nei fatti potrebbe nell'arco di questa settimana sparire. Ho parlato con Zaia invece che mi ha detto: sono d'accordo con te, no mascherine all'aperto, il metodo deve rimanere quello del 4 aprile di Borrelli, non porto la mascherina perché mantengo le distanze, l'unica regola è la distanza di un metro, e questo l'ha confermato anche De Caro, che è il presidente dell'ANCI. Cioè tu continui a non portare mascherina all'aperto, no, stai dicendo? No, ma lo ha detto anche De Caro, la mascherina all'aperto non è necessaria se c'è la distanza, ha detto. Ecco, ma solo che è difficile, Vittorio, da gestire questo, cioè è vero nella pratica, difficile nella teoria, cioè nella pratica è giustissimo, la mascherina serve a proteggere gli altri più che te, perché quella mascherina che ci danno chirurgica non serve a un cazzo, se non a proteggere gli altri, infatti si chiama di cortesia, non di sicurezza. Ma in alcuni casi ma dicono che sia anche obbligatoria. No, ma dentro i locali, certo, se tu vai a comprarti un paio di scarpe, te la devi mettere per forza. È obbligatorio anche all'aperto. Comunque locali. Voglio dire, Burioni per esempio sostiene che bisogna per forza andare con una mascherina, signor Burioni. Addirittura adesso te la piglia con quelli come forza. Te che dicono no mask. Adesso arrivano pure quelli no mask. Dopo quelli no covid ci sono perché i negazionisti. È difficile da gestire. Ci sono i negazionisti delle mascherine, capito Vittorio? Cioè ti ha preso come un negazionista delle mascherine il signor Burioni. Ma io me ne frego, in realtà io mi fido di Garattini, di tutti i medici, ho contatti ormai con centinaia di medici, all'aria aperta c'è la salute. E quindi non puoi imporla né in una spiaggia. È chiaro che in un luogo dove poi, come al chiuso, è capitato la povera De Usagno, lì quel pasticcio, lì occorre montarla perché sei in uno spazio di comunicazione. Per cui pensa che l'altro giorno mi sono dimenticato, mi è capitata una cosa strana. Cioè? Volevo chiamare Parenzo, sì, con cui abbiamo fatto una puntata di insulti che è stata memorabile. Memorabile, sì. Per dire che aveva ragione su qualcosa, però cioè? Poi non sono riuscito, almeno non me lo ricordo. Ah, non ti ricordi un cazzo, ormai ogni tanto perdi. Perché ero combattuto fra mantenere il nostro tono incazzoso, che sarebbe stato interrotto da questa telefonata cordiale, ma non mi ricordo su cosa poteva essere. Però scusami Vittorio, ti posso dire una cosa? Allora, la questione dei sindaci che adesso vogliono vietare l'aperitivo all'aperto non è ridicola. Cioè alcuni sindaci vogliono vietare l'aperitivo all'aperto, ma di cosa stiamo parlando? E invece vogliono autorizzarlo al chiuso, ma dai, su. All'aperto non devono proibire nulla, perché l'aperto è la mia vittoria massima, è il luogo della salute comunque. E stare al chiuso con la mascherina è quello che ti fa prendere l'anidride carbonica che tu stesso produci. Vero sì, che certo, la misura di farli prendere all'interno può diventare veramente, sarebbe interessante che loro diffondessero il morbo proprio perché ti costringono a stare all'interno, ma non credo che prevarranno, perché lentamente il virus se ne sta andando. Comunque tu sei all'aperto. Secondo te se ne sta andando all'aperto seguendo le regole, molto più semplice. Sì, vabbè, buonanotte. Uno come beve, ma come bevi tu? Come bevi all'aperto? Ma no, è ovvio che come te lo cazzo togli, bevi? No, dai, la mascherina, è evidente che te la devi togliere quando bevi. Basta che non girino 100 persone, scusa, dai, un tu po' lo di faresti il vaccino? Il vaccino lo faresti o no? Ma certo. Ma io sono favorevole ai vaccini in generale. Non però sono questo mai qua lo faresti o no? Sei come Tarro che dice col cazzo che non serve a nulla, eccetera. No, Tarro ha una posizione antica, però fu quello che lavorò con Sabin. Quindi il vaccino bisogna che sia testificato e accertato. Molti dicono che sarà talmente manipolato da poter essere pericoloso. Non lo faresti, sai, tu? No, non è materia su cui io posso pronunciarmi. Tendenzialmente lo farei. Ah, tendenzialmente lo faresti. Ma io sì, se è autorizzato da chi deve autorizzarlo, l'AIFA e quant'altro, non essendo un esperto lo, mi devo fidare e quindi lo faccio. Senti, sì, ma hai ripreso l'attività sessuale? Che qualcuno dice che l'altro giorno una sessuologa da noi ha detto che ci sono vari pericoli nell'attività sessuale con sconosciuti, cioè l'attività sessuale con persone non conosciute, cioè, però tu comunque, cioè, hai una fidanzata con cui non fai sesso da un sacco di anni e poi hai incontri occasionali. Vabbè, lei sostiene, questa sessuologa sostiene che gli incontri occasionali sono i peggiori, in questo momento vanno evitati, e in particolare il pompino, cosa incredibile per la questione della saliva, eccetera eccetera, per cui questa è una non credo che sarebbe la mia sessuologa questa. Tendo a ritenere che il pompino faccia sempre bene, sempre, qualunque sì, sia, quello, in qualunque modalità. Sì, questo è per vero. Cui sì, questo nudo, penso che sia peggio prenderlo nel culo. Penso che sì, sì, vabbè, questo, su questo io concordo al 101%, diciamo. 101%. Vabbè, questo che c'entra. È peggio prenderlo nel culo, perché ritengo anche, non c'è mai dubbi. 101% proprio questo. Però scusami, è da sottoscrivere. Scusami, tu vivresti solo di pompini praticamente, cioè, per te. Ma credo che arrivati alla mia età sia più rassicurante, perché non prevede la prestazione, sì, prevede questo, sì, certo, una specie di cosa affettiva come il ciuccio, se chiunque prende un uccello in bocca torna allo stato infantile, per cui questa sessuolo che non sa che cazzo dice, non so, non, no, sostiene che sostiene... per paura dell'AIDS mettevano il preservativo anche al pompino, cioè dico, ma che roba è? Cioè l'AIDS non è che passa attraverso lo sperma, passa attraverso la droga, attraverso il sangue, attraverso il pompino, poverino, è salutare, o è crema con cui tenersi bella la pelle, o è una bevanda piena di vitamine. Questo vabbè, devo dire questo, che io, la descrizione sgarbiana di quello che accade nella parte finale, diciamo, della fellazio, la trovo straordinaria. La trovo straordinaria. Però scusami, tu dunque e mi dopo sei... questo io chiedo, è compatibile con la nostra radio tutto questo? È compatibile ancora questo messaggio? Ma certo che è compatibile. No, lo chiedo, una domanda retorica. No, però lo voglio chiedo dire, Vittorio sa benissimo che in questo momento sostenere come fa quella sessuologa lì, che il sesso occasionale è da, non dico da evitare, è una roba incredibile, cioè la gente non si trattiene più, cioè uno come te che non è abituato ad avere un rapporto fisso non è che può adesso per il coronavirus essere impedito in questa roba qua, anzi una proibizione diventa più stimolante per la trasgressione, che è quello che si tende nei nostri tempi a ridurre, i matrimoni gay eccetera tendono a ridurre l'elemento trasgressivo, sì, questo è vero, e invece sì, è l'unica componente divertente del sesso, quindi si pongono dei veti e noi ci divertiremo di più, perché sì, questa... a forza di mancanza di veti tutto è disponibile, non c'è più neanche divertimento a fare l'omosessuale. L'omosessuale deve essere guardato come se fosse uno tranquillo, come una coppietta, perfino triste, sì, sì, ci saranno un sacco di giovani che non diventano omosessuali perché non è più trasgressivo. Se occorre, cioè Verlaine e Rimbaud erano dei modelli meravigliosi, ma non che devi essere lì con la mogliettina, il paparino, insopportabile. Quindi grazie alla sessuologa, si dica di no e noi faremo il contrario, si dica che lo dobbiamo chiamare e chiameremo, lo dobbiamo farci fare i pompini, li faremo in quattro, sarà tutto il pompino. No, però devo dire che finalmente si torna a parlare di cose serie con Sgarbi, perché sennò mi ero rotti i coglioni di parlare delle stesse cose. Però la realtà è questa, ha ragione perfettamente, se tutto è libero, cioè se non ci sono un po' di paletti, ragazzi, alla fine diventa noioso, per cui in questo periodo... il mio vice sindaco Lido Di Mauro, che è omosessuale, il tuo vice sindaco era un bello omosessuale storico, ma adesso mi fa l'elogio della bellezza della monogamia, cioè sono loro che ti fanno, cioè ormai li guardi, dice, sono io che sono trasgressivo, perché io mi amo una donna e un'altra, invece loro fanno la festa della famiglia, il mio compagno, la fedeltà, per me sono diventati, è un mondo che si rovescia, cioè andare con una donna sarà una trasgressione, andare con un uomo sarà bene, fedeltà, rigore, bambini. Certo, è vero. Hai capito? Quindi è un mondo incredibile. È un bel paradosso. È un paradosso, però, che si è realizzato. Ha perfettamente ragione. No, però, scusa, queste proibizioni che ci sono sul sesso in questo periodo, che ti dicono no, stai attento perché ma addirittura si può. Come no? Dai, no, proibizioni formali no. Però attenti, ti dicono che l'incontro tra due persone sconosciute in questo momento, figuriamoci di due regioni diverse poi, perché pare che ci voglia l'indice di contagio. Che cazzo vado a trombare in Umbria o a trombare da qualche parte però, chiedendo guarda, l'indice di contagio? Dai. Siamo arrivati a venerdì. Sarà una settimana, saremo qua a celebrare il funerale del coronavirus, diremo cazzo, c'è un contagiato, uno solo che sto in Piemonte, morti zero, e a quel punto i cittadini, sentendo notizie che ribalteranno quello che avevamo vissuto, cominceranno a fare quel cazzo che vogliono, mandando a fare in culo sindaci, presidenti, sessuologi. Speriamo, e speriamo perfino, che succeda. Perfino Parenzo sarà libero. Ma devo ricordarmi quello che gli volevo dire. Ma tu, oltre allo scatto sulla sull'ingrazia di quello lì, io ovviamente non ero d'accordo con te. Ma cosa hai detto di nobile, di bello che mi è piaciuto? No, ha detto che Rubi ruba cuori, ha detto questa cosa di Rubi ruba cuori. Ah, con Sallusti, no, ho fatto un piccolo confronto con il direttore Sallusti. Quello. Lui mi faceva una lezione di giornalismo, io ho detto guarda, accetto lezioni di giornalismo da tutti, ma non da chi ha sostenuto che Rubi ruba cuori fosse la nipote di Mubarak. Tutto là, sì, avrà questo, degli questo zii letto. Anche Rubi, senza nessun però problema. Però io volevo tornare su un tema che Sgarbi ogni tanto affronta. Sempre l'altro giorno una sessuologa ci ha detto che ormai il pelo si sta per esaurire, cioè sta per morire la moda del pelo, il fatto che le donne, perché i giovani non vogliono più la figa pelosa, e dunque progressivamente col passare delle generazioni questa moda sparirà, questa moda, insomma, il fatto che la donna abbia la figa sul il pelo sulla figa sparirà. Ma come siamo finiti a parlare ancora ora, di questo? La cosa non so se ti rattrista, a me rattrista moltissimo però questa molto, cosa. Molto. Ma nel senso però, è una cosa di una tristezza infinita sapere che mano a mano che passano le generazioni la donna, no, io non ci credo, ci sono La lingua lavora per noi. Cioè, in che perché senso? Se tu pensi alla lingua siciliana, figa si dice pilu. Intanto che c'è il pilu, se non c'è il pilu c'è anche meno figa. Ah, tu dici questo. Ah, ecco, vedi, questo è cioè, questo dal punto di vista proprio etimologico. Dal punto di vista etimologico, la figa senza pelo non è figa, dici? È meno figa, sì, è una cosa più somiglia di più al culo. È triste, ma è questo teorema che il culo è più importante, che ha reso le fighe come dei culi. È passato però, e questo vale anche per le donne che conservano giustamente la penuglia davanti, perché ha una sua bella rappresentazione così di floridità, che non va bene il pelo sotto le ascelle. Quello è universalmente... Invece la vera donna deve avere il pelo nella figa e il pelo nelle ascelle. Quella è l'eroe. Quella va guardata, quella è molto rara. L'origine del mondo è molto rara, del mondo. Quella è molto rara, ragione Sgarbi, è molto rara effettivamente, ed è una roba da preservare quasi, no? Da preservare. Ma man mano che quella ha prevalso per l'eliminazione del pelo dalle ascelle, lentamente si è diffuso anche l'altro pelo. Quindi sono due livelli. Sì, tu la trovi ogni tanto la tua, quella col pelo sotto l'ascella e quella col pelo nella figa, cioè la trovi questo prototipo? Questo prototipo. Quella del pelo sotto l'ascella non la trovo più neanch'io. Quella del pelo della figa, sapendo che io l'ho discusso molto, non si presentano neanche, se non hanno i peli, si ritirano prima. Ah, si ritirano prima, questo è interessante. Hanno paura che lo le mandi via a fare in culo, non abbasso, non c'è il pelo, non c'è neanche la figa. Saranno molto contenti i nostri editori per questa conversazione, nei dettagli, diciamo, questa conversazione che proprio trova il pelo nell'uovo, diciamo, i nostri editori saranno contenti. Ciao Vittorio, questo, un abbraccio. Il capolavoro è quello, io imparai tanti anni fa a Pozzuoli, uno che mi disse: non ho peli sulla lingua, e se li ho, non sono miei. Ciao Vittorio, perfetto. Un abbraccio, ciao. Ciao Vittorio, ciao. Manda a fare il culo quel Parenzo, non chiamarmi più con lui, non è più un amico, è un nemico dell'Occidente, è un nemico di Israele, non voglio più neanche parlarti. Pensa a Caravaggio, tu va, sei finito, non voglio più parlarti. Caravaggio, vai dalla tua amica, vai dai tuoi amici, terroristi, vai dai tuoi amici terroristi, fuori dai coglioni, non voglio più vedere uno pericoloso per la democrazia come te, non voglio più vedere, occupati del correggio, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Ciao Vittorio, ciao. La Zanzara. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni, senza denti, con la dentiera, e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Grande Max. Ciao Rocco. La quarantena ha portato anche aspetti positivi. Prima stavo osservando una piacevole ricrescita a lato della mutandina della mia fidanzata. Finalmente un boschetto come si deve. Volevo dire a David che a me piace totalmente rasata, a petto di pollo, però devo ammettere che ho avuto anch'io qualche debolezza, cioè in tempi di magra mi sono dovuto accontentare del pelo, quindi sì, mi sono ritrovato anch'io i peli in bocca, tra i denti, ma il petto di pollo è una cosa spettacolare, proprio entrare, leccare tutto è una soddisfazione unica e è l'unica cosa con cui non concordo col Crux. C'è 1023 euro per l'upelu di Malena la pornostar e la gente muore di fame e la gente muore di fame. C'è 1023 euro per il pelo di fica di Malena la pornostar. Madonna. Allora ragazzi, intanto vi facciamo riascoltare a proposito di pelo il confronto tra le due sessuologhe, diciamo così, sì, sono studiose della materia, che abbiamo ascoltato qualche giorno fa. In primis la Cozzolino, che dice che i giovani sono abituati a vagine senza pelo e dunque si va verso la scomparsa. Sei abituato ad un tipo di vagina che oggi i ragazzi non vedono più perché la moda la vuole in un altro modo. Quindi un ragazzo che oggi ha 20-25 anni vede da sempre una vagina depilata, una vagina pulita, una vagina molto infantile, ecco, mettiamola anche così, per certi adulti, no? Andiamo verso una società in cui non ci sarà più una, ovviamente con le dovute eccezioni, non ci sarà più una donna con il pelo. Per il momento non se ne parla. Cioè il pelo si estinguerà. Si rifiutano assolutamente. Di contro Rosa Maria Spina, non è vero, il pelo non scomparirà. Proprio un dibattito, proprio all'ultimo sangue, proprio. Tu lo usi il pelo oppure no? Oppure sei refrattaria a questa cosa? Ah, perché se c'è ha una sua funzione. Dunque, quindi io penso che non bisogna neanche estremizzare troppo. Ecco, ma è vero che scomparirà o no? Che i giovani sono così contrari? No, perché comunque è una questione sempre di gusti e i gusti sappiamo che sono estremamente variegati. Non è vero che i ragazzi più giovani vogliono solamente il petto di pollo. No, non è vero. Andrea dalla provincia di Ferrara, vai Andrea, dimmi. Andrea, dimmi. Ciao Giuseppe. Vai. Ciao Davide. Ascolti, io volevo intervenire. Buonasera. Riguardo al passaporto sanitario. Il passaporto sanitario, sì. Passaporto perché io sanitario. Sono sardo, ma abito ormai da tanti anni in Emilia Romagna. Allora, sono assolutamente contrario a ciò che hai detto. Proprio oggi, non so se hai letto i giornali, le ultimissime. No, non ha letto niente lui. Ma chi te l'ha detto? Da Reggio Emilia è stato trovato positivo a Cagliari. Era partito. Ma che c'entra? Dal... E allora? Era partito? Era partito in aeroporto da Bologna. Esatto. Allora? Hanno messo 50 persone in quarantena. Ma cosa vuol dire? Quindi creando un danno ulteriore all'economia sarda. Creando quindi un danno ulteriore all'economia sarda. Esatto. Senti, Andrea. Bisogna partire dal presupposto che non è una stagione normale. Non possiamo pensare di Andrea, se volete impedire ai tedeschi, agli inglesi, questi prenotano altrove già. Sta succedendo, prenotano da altre parti. Non esiste il passaporto sanitario, è una mezza truffa. Non esiste. Che sia sbagliato la nomenclatura, come ma non esiste questa roba. Ma uno che parte verso la Sardegna si farà prima dei controlli suoi? No, ma che vuol dire? Ma che cosa vuoi fare? Anche per la sicurezza sua e di chi sta là? Se vi piace così, allora vi ripeto. Ma scusami, se mi lasci spiegare, allora tu non puoi pensare di avere 15 milioni di presenze dell'anno scorso perché è una stagione anomala per tutti. È inutile, è una stagione anomala. Allora, se tu vai in un villaggio turistico, in qualsiasi posto, e salta fuori che sei un positivo. Ma non è che il positivo è un lebroso. Ma ragazzi, dite? Ma tu puoi immaginare il fuggi, puoi immaginare il danno d'immagine che ci può preservare. È meglio fare un turismo sicuro. Ragazzi, se volete mettere queste limitazioni alla Sardegna, mettetele pure. Così quest'anno avrete un sacco di persone che non vengono e voi ve la pigliate in quel posto. Che cosa ti devo dire? Ma è impossibile realizzare sicura, questa cosa. È impossibile. Ragazzi, ormai dappertutto. Ma quelli verranno fatti. Verranno aumentate alcune regioni. Ma è il passaporto sanitario che è una follia. Non esiste il passaporto di sicurezza. Ma non esiste, si crea, si fa. Cioè, Andrea, ciao. Vedrai che lo faranno anche da altre parti. Ciao. Francesca da Roma, avanti Francesca da Roma. Francesca. Francesca, mi senti? Un attimo. Aspetta, aspetta. Pronto, mi senti? Ti sento, dimmi, dimmi Francesca, dimmi. Sì, guarda, io volevo puntualizzare sulla questione delle sessuologhe che è stata sollevata precedentemente. Sì. Tu hai il pelo? Tu hai il pelo? Sì, cioè, ovvio, ecco, io ti ho chiamato, non so se ti ricordi. Ah, sì, come no? Sì, sì, sì, mi ricordo. Cioè, esatto, tu hai una domanda da fare. Al pelo, sì, chiama per questo. Ma ti pare che no? Uno chiama, esatto. La trasmissione è una trasmissione no, radiofonica normale, no, in cui chiamo, una scommessa. No, perché, adesso perché d'accordo, lei ha ragione, ma io pongo un quesito, poi sto zitto. Ma è normale una trasmissione radiofonica in cui un'ascoltatrice chiama e quella dice: scusi, come va? Il pelo lo fa, non lo fa? È normale. Ma chiedo se è normale. Se è normale. Chi sta chiamato per il dibattito che c'è sul ma pelo? Ma uno che chiama, scusi, lei chiama. Quanto lungo ce l'ha? Ce l'ha lungo o corto lei? Quanto è lungo? Ha il pelo molto folto, Francesca? Lei ha il pelo molto folto? Sì. Cioè, ha la figa completamente incolta? Totalmente no. Nature. Cioè, totalmente nature. E il coso? E sì. E le ascelle? Idem. No, mamma mia. Cioè, idem. Cioè, il prototipo sgarbiano, praticamente. Cioè, l'ideale di Sgarbi di prima. È l'ideale prima di Sgarbi, che dice che è un fatto raro. Cioè, sei una rarità assoluta. Ricordiamolo, sono sì, una rarità assoluta. Sono una rarità assoluta. E assolutamente, io ho 27 anni, quindi non sono vecchia, decrepita, old, cioè granny. Cioè, 27 comunque anni tu hai i peli sotto la scella molto folti, sì. Che curi ogni tanto o non curi. Ricordiamolo, gli ascoltatori, questa vecchia conversazione. Li curi o non li curi, sti peli? Ma curare, cioè, io ho un'igiene del corpo normale. Un'igiene, però cioè. Non li tagli. Non li tagli? No. Eppure quelli della figa non li tagli? Esatto, non li taglio. Cioè, dunque escono fuori dal bordo? Escono fuori dalle mutandine, esatto, perché le mutande sono fatte per la figa depilata, perché qualunque figa esista non può entrare nelle mutande col pelo. Mamma mia, ma è allucinante. Scusami Francesca, rispetto a questo dibattito. Ma non è allucinante il fatto in sé? Stare tranquilli. È allucinante che i boxer coprono tutto il pelo pubblico e le mutande delle donne no, raga, questo è allucinante. Cioè, dovrebbero fare delle cose. È allucinante che ci sono delle mutande che non coprono la fisiologia femminile così com'è. Basta. Cioè, ormai fanno delle mutande che sono invogliano al taglio del pelo, tu dici, no? Cioè, praticamente portano inevitabilmente al taglio del pelo perché non coprono tutta l'estensione. Secondo me, il perizoma con il pelo Gesso è carino, però alcuni generi di mutanda classica. Ma tu come fai al mare, per esempio? Come faccio al mare? Metto lo speedo attillato da uomo, così. Cioè, tutto il culo sottolineato è perfetto. Sì, ma ho capito, non porti il bikini, quello, cioè il bikini quello sottile, diciamo, posso immaginare, con tutta la figa che esce fuori. Cioè, ma con tutto... potrei farlo, non avrei problemi a farlo. Perché i bikini non mi piacciono i colori, non mi piacciono le fantasie. Però tendenzialmente non lo fai, cioè non porti il costume sottile, perché altrimenti si vedrebbe una specie di copertura, no? Si vedrebbe. Ma tipo adesso che sono a Roma in giro, cioè i pantaloncini corti, esce il pelo fuori. Cioè, si vede il pelo della figa. È viva, che vuoi? È viva. È bellissima. Allora, è viva, cosa volete che vi dica? È viva, siamo no? Liberi, ma non altro, non altro da aggiungere. Scusami Francesca, voglio chiederti una cosa però. Allora, la cosa è questa, ma è vero che tu hai 27 anni, dunque sei giovane. È vero che frequenterai anche, non solo, anche coetanei. È vero, come dice quella sessuologa eccetera, che scomparirà, cioè che non piace. Diciamoci la verità, cioè andrà scomparendo, che tu alla fine ti senti un caso più unico che raro o no? Guarda, come ti ho detto l'altra volta, tendenzialmente stimoli una reazione di sgomento quando si rendono conto di una situazione del genere. Sì. Però non è che uno viene a letto con te per i peli che hai o non hai. Cioè fare sesso è un'altra cosa, no? Cioè, siamo tutti d'accordo, quindi se vuoi sapere non c'è peli, insomma uno può rimanere anche sconvolto di fronte al bosco enorme, di fronte al bosco enorme, io personalmente se no. Se uno si sconvolge perché mi vuole portare a letto, mi tocca e sente il bosco e si sconvolge, non è degno di venire a letto con me. D'accordo, quello d'accordo, però voglio dire, sei per la teoria spina che dice che non scomparirà o per la teoria cozzolino che dice che in realtà si estinguerà, perché ormai i giovani hanno quasi paura, la fobia del pelo. Allora, non scomparirà secondo te? Non scomparirà. I giovani hanno la fobia del pelo perché è l'estetica imperante. Certo, è l'estetica imperante. Hanno la fobia del pelo, cioè, ci confermi che hai la fobia del pelo. Scomparirà non è che significa scomparire al 100%, però si andrà quasi estinguendo. Cioè, tu sei un caso raro quasi da foto, cioè quasi da immagine, quasi da quadro. Questo è il punto fondamentale. Sì, ciao, sì, da Courbet. Ciao. Arrivederci, signora, grazie. Yeah. Stefano da Cagliari, vai Stefano. Stefano, dimmi. Salve, diciamo grazie innanzitutto per i 30 minuti di attesa. Sì, quello è, quali, è se... 15 minuti dei quali di puttanate, sì, di sgarbi, sì, un minuto di pubblicità che era ottima perché era il momento più culturale della... Sì, ma questa non è una trasmissione culturale, non ti preoccupare Stefano, sei capitato male. Sì, però gli sgarbi erano puttanate una dopo l'altra, ad esempio i pompini che non si prende l'HIV con lo sparo. E questo è sbagliato, questo è sbagliato. Un sacco, sì, di puttanate. Ma le stai dicendo tu, lo stai correggendo tu, per cui che problema c'è? Stai correggendo tu questa cosa? Non l'hai corretto tu, potevi correggere. Ma io stavo pensando ad altro, sono cazzi miei, ok, ho capito, sono cazzi miei. Parenzo, ad esempio, che Parenzo era lì. Ci sei tu apposta per correggere, ci sei tu apposta, il professore Stefano da Cagliari, per correggere sgarbi. Faccio il professore, ragione, infatti, sì, ma va benissimo, perché no, ma qual è il problema? Duro, faccio l'insegnante. Ma no, non c'è niente di male, Stefano, che fai l'insegnante, okay, ti sto prendendo per il culo, ti sto dicendo, no, no, sei no, qui, qualcosa di male, perché ti sto dicendo che sei qui, che sei, no, ma non sei, sì, qui, sei qui per dire, no, che Sgarbi, okay, ha detto una puttanata, benissimo, sì, si può, il HIV si può prendere anche con lo sperma, va bene, dunque andiamo avanti. Ok. Poi altre puttanate da parte del mio conterraneo che vive in Toscana, ok, anche quelle. E poi volevo dire che è una trasmissione molto maschilista, perché o chiamano camionisti, o chiamano, chi chiama altro, muratori, non lo so. Gente, Stefano, ma che sei venuto a fare, a rompere il cazzo sul tipo, no, di sul tipo di persone che chiamano? Non ho capito, sei qui a fare il professore sul serio, per dicendo chiama questo, chiama questo, chiama quest'altro. Vuoi fare un'analisi sociologica su questa trasmissione? Sei capitato male, caschi male. No, non voglio fare quello. E allora che dici? Mi stavo solo lamentando un attimo, perché sto aspettando da mezz'ora di fronte a un cimitero. Mi prenderanno per uno scambista, sono qua che cammino. Okay. No, ma anche se ti pigliano per uno scambista, non ho niente contro gli scambisti, per cui che problema c'è? No, neanch'io, figurati. Ma non ho capito qual è il punto fondamentale. Scusa. No, il punto fondamentale è, visto che parlate sempre di fighe, dei pilati, poi sono di fronte al cimitero, ogni tanto non si risvegliano i morti. E allora? Visto che parlate sempre di fighe, dei pilate, pelose, eccetera. Perché non parlate mai di cazzi, ad esempio? Non ho capito, sei omosex? Potrei esserlo, perché? No, potresti dire tranquillamente, io non ho problemi. Cioè non... Io non ho problemi a dirlo, però potrei esserlo, sì. Potresti, sei omosessuale, dunque dovremmo parlare più Guarda, introdurre altri argomenti già abbastanza... Sì, ma Stefano, posso dirti una cosa? Guarda, parliamo di cazzi continuamente. Cioè, parliamo continuamente, ti posso dire Di fighe. Ma ho capito, ma di tu. Ho capito, ma se vuoi dire le tue preferenze in quanto a uccelli, ma non sfondi una porta aperta pure. Mancava pure questo. Il professore Stefano di più, infatti, sì. Ma assolutamente, ma sfondi una porta aperta, amico mio. Facciamo che lunedì facciamo per lamentarsi. Aspetta, e poi vuole introdurre un altro argomento. Scusami Stefano, posso dirti una cosa Stefano, siccome sei è tragica, è una trasmissione. Mi pare di capire che sei omosessuale, per me va benissimo e per me sei stupendo, meraviglioso, cioè nel senso se sei contento tu, sono contento io. Allora, se vuoi inaugurare una sessione per parlare di preferenze di piselli tra nella comunità omosessuale, sfondi una porta aperta con me, sfondi una porta aperta, ti abbraccio, parliamone adesso. Tu per esempio quale uccello ti piace di più? Che tipo di uccelli ti piacciono tu come gay? In generale io sto più una parte d'attivo, quindi diciamo sei attivo, sei attivo, che attivo, non è che cioè, anche gli attivi non vuol dire niente, mi è capitato anche sei attivo tu, sei un gay attivo, cioè non lo pigli in culo questo, perché dovrebbe essere interessante sapere questo, non lo prendi in culo o non lo prendi? Perché educazione sessuale, ma ha ragione Stefano, devo passare dalla parte di Stefano. Lo prendi in culo o non lo prendi? Poi ci risentiamo lunedì Stefano, lo prendi o no? Ogni tanto, lasciamo il dubbio, rispondo lunedì. Ma so. Non sei il professore, adesso non sei, capito, il presidente della regione Sardegna. Che io non passerò il weekend non passerò il weekend domandandomi ma chissà quali sono i gusti di sto signore. La Zanzara. Dovrebbe preoccuparsi dei bambini cristiani che vengono uccisi anche in questo momento, li stanno uccidendo. Sono tutti presidenti come Putin. È vero. La cosa più straordinaria è che mentre andava in onda prima conversazione con Francesca da Roma sul pelo, c'è uno che manda un messaggio, secondo me ha sbagliato radio, in cui ha scritto: senti, egregio dottor Cottarelli, qui al WhatsApp della radio, sono d'accordo con la sua tesi, ma personalmente penso che la Germania è un paese molto più preciso, ecco, ed economicamente più produttivo, ma molto più affidabile del nostro questo? Paese questo Italia. Sono queste sue qualità, ti giuro. Messaggio delle 20:17, messaggio WhatsApp a questo WhatsApp. Allora, caro amico mio, io credo che tu abbia sbagliato indirizzo WhatsApp. Temo proprio di sì, ma dispiace molto anche a me, mi ferisce molto anche a me questa cosa. No, è possibilissimo. Allora ragazzi, ieri sera ho combattuto un po' con il signor Librandi, Gianfranco Librandi, che ha presentato quella roba incredibile del bollino coronavirus free. Io gli farei una telefonatina per ricordargli questa puttanata. Questa no, non mi ha fatto niente, mi sta simpaticissimo. Quando dice certe cose mi fa incazzare, insomma. Secondo me dice delle stronzate pazzesco, perché una cosa del genere non si può mettere adesso. Poi che cosa vuol dire corona? Vabbè, chiamiamo. Pronto? Gianfranco? Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Bene, e tu? Mamma mia, amico mio, mamma mia. Cosa ma ti perché? Sei... Ma Librandi, perché? Sono Parenzo, perché vai in quella... In quel ciao, caro, solidarietà. Io piangevo l'Italia per te. Io ieri sera ero davanti alla televisione, a un certo punto stavo piangendo per te quando hai tirato fuori quel cartello sul ristorante. Piangevo perché ti attaccavano tutti. No, ma non me ne frega un cazzo. Io so che quella sarà la soluzione. Sostenere davanti a tutti gli altri che siamo liberi dal coronavirus. Ma chi lo dice? Non è che un albergo può essere un presidio medico. Ma di che parli? Ma cosa, un attimo, tu è pazzesco, guarda. Cioè, oltre a difendere l'indifendibile, perché difendi sempre i leghisti, sì, che sono quelli che hanno distrutto tutto. Vero. Ah, che hanno distrutto allora, i leghisti, non ho capito allora, cosa hanno distrutto. Questo, se tu invece di fare quello che fai avessi una ditta dove devi rispettare i pagamenti, ma cosa c'entra questo? Che no, c'entra questo? Ragioneresti in un altro modo, perché capiresti le cose, invece non vai oltre. Ma scusami, questo già... non vuol dire che nessuno viene contagiato, vuol dire che c'è un protocollo che viene garantito dal sindaco, viene garantito. Ma dalla nessuno regione, può mettere dalla... coronavirus free, perché è falsa, sarebbe una roba falsa, no, finta. No, ma come vero, puoi dire? Come puoi dire che una città, un albergo. Vuol dire che c'è un protocollo che cerca di essere molto rigido. Dai, e che garantisce che ci sono. Gianfra, hai fatto una stronzata. Dai, su, hai fatto una cosa. Senti, questo bollino coronavirus free è una buffonata. Che va bene, per carità, per fare lo show. Lo show va benissimo. Però basta. Ad arrivarci, quello della Sardegna ha detto la stessa cosa, l'ha detto infatti, infatti ha detto una cazzata, infatti ha detto una cazzata, invece, perché no, invece l'uomo della verità sei tu. No, ma che capito? Volevo, io non voglio essere l'uomo della verità. Io sto criticando quello che hai fatto. Ascolta, io che lavoro tutti i giorni con i tedeschi, con gli spagnoli, allora? Io lo so cosa pensano. Pensano che siamo impestati per colpa di quelli della Lombardia, dei tuoi amici che hanno fatto degli errori pazzeschi. Cioè tu stai dando a Fontana dell'assassino praticamente. Sì. Ma no, dell'assassino no, come no? Arriva fino in fondo a dire che ha causato migliaia di morti fondo, perché non hai il coraggio, però lo pensi. Ascolta, voglio risolvere i problemi della col bollino. Dell'Italia, sì, col bollino. Col bollino coronavirus free. Coronavirus free. Sì, perché ascolta un attimo, quando tu vai a vedere un hotel che è di 4 stelle, 5 stelle, non vuol mica, c'è un protocollo. Ma non lo puoi mettere coronavirus free, ma perché magari non è vero non in quella città. Ma lo stanno usando in tante parti del mondo, ma perché tu ci arriverai tra due mesi. Ma che è sto bollino? Ma che roba è? Ma che roba è il bollino esatto. Coronavirus free? Ma è una puttanata. È un bollino depositato e chi lo usa deve passare da me, che glielo regalo naturalmente. Ah, hai depositato pure il marchio, dunque. Certo, vabbè, grazie, assolutamente. Però dice gratis, è un imprenditore e dona. Ma, ma Renzi lo sa, non ti ha già cacciato, Senti, per questa buffonata, dai, su, Giuseppe, ma che roba. Purtroppo sei un ragazzo intelligente, ma difendi le cause perse. Ma io non sto difendendo nessuno, io vedo amici di chi non sono amico di nessuno. A tutto spiano, perché la gente alla fine si rende conto, quando adesso tra due mesi, cioè tu dici il disastro, la disoccupazione al 25%, non crederanno più alle cazzate dei vostri partiti, crederanno a quelli che stanno risolvendo ma questo i problemi. Un altro ma non ho capito, io non ho che tu vuoi risolvere i problemi col bollino coronavirus free, che è una cosa falsa che non si può fare. Non si può. Un albergo, se mette una cosa del genere, lo arrestano perché non è vero, magari c'è un contagiato. Il coronavirus free vuol dire che c'è un protocollo e lui rispetta questo protocollo. Ma tutti rispettano i protocolli, non c'è bisogno di mettere coronavirus free. Ma che roba è? Dai. Tra due mesi, quando lo vedrai fuori dagli hotel e ristoranti, sì, dirai, no, ma questo è, ma chi lo fa il protocollo, però, Librandi? No, ma a me interessa molto sta cosa. Ma chi lo fa il protocollo? Dimmi in 40 secondi, chi fa il protocollo? Lo fa l'Istituto Superiore della Sanità, sì, lo fa chiunque. Ma quello già ci sono i protocolli, ma già esistono queste cose qua. Ma scusa, io voglio capire. Io sono noioso. Hai fatto. Ma io sono stucchevole. Non tutti avete idee, voi criticate l'Italia, pretendete che... Ma voi chi? Parla con me. Tu e tuo amico di ieri. Ma parla con me, che il tuo governo ha detto che bisogna fare le vacanze in Italia mentre vogliono far arrivare gli stranieri. Ha detto che le vacanze bisogna fare in Italia. Il mio governo ce la mette tutta per cercare di risolvere i problemi e diciamo con qualche errore ce la fa. Nonostante dici la Lombardia. La Lombardia tu dici ha provocato... Nonostante la Lombardia, sì, perché bastava chiudere i focolai e non c'era questo problema, perché in Cina non hanno mica chiuso tutta la Cina. Dunque è giusto processare Fontana, è giusto processare. Ma me ne frega di Fontana, lo dici te, Fontana non me ne frega un cazzo. Io dei nomi non ne faccio. Ah, non io fai dico nomi. Che sono stati sbagliati, sbagliate le scelte. La Lombardia è stata governata da fantasmi. Allora parliamo da di fantasmi, Gallera, da fantasmi. Di altri, hai capito? No, perché comunque, sei amico di Fontana, naturalmente. Ma Fontana è uno che anche oggi ha detto che chiude tutto. Sei dalla parte sbagliata. Ma io non sono da nessuna parte, io sono dalla parte... Tu hai un bel cervello, ma lo sprechi. Ma scusami un attimo, tu hai proposto... Fare del bene alla tua nazione. Del bene alla nazione, del bene alla nazione. Bene alla nazione è il bollino, presentare in TV, stampare in faccia un bollino coronavirus free. È intelligente questo qui, perché basta scrivere sotto al coso secondo il protocollo numero, sì, secondo i numeri, eccetera. Ma che roba è? Chi me lo dice che è coronavirus free? Ma chi lo dice? Te lo dice il protocollo. Sì, il protocollo. Il protocollo dice che quell'albergo non ci sono infettati. Lì, così se uno si infetta là dentro poi fa... Il coronavirus usano quel protocollo. Che ma è normale che lo devono usare, a prescindere dal fatto che uno mette un bollino fuori con scritto coronavirus free, che non è vero. I francesi, i tedeschi e gli inglesi che adesso vogliono fare ancora la quarantena, loro pensano che in Italia siamo contagiosi, che siamo delle schifezze umane, perché in televisione abbiamo fatto vedere i camion che andavano morti, che non è giusto, perché abbiamo un sacco di contagi. Dobbiamo spiegare a questa gente che non è più così, che il coronavirus è sotto controllo. Loro sono sensibili a queste cose, tu queste cose non le sai. No, ma io le so benissimo, ma non c'è bisogno. Ma che filo leghista? A me non me ne frega, c'ho il cervello, perché i leghisti che hanno il cervello più piccolo, i leghisti, non ho capito. Hanno un cervello primordiale, non più piccolo. I leghisti hanno un cervello primordiale. Esatto, hanno un cervello, sì, primordiale. Un cervello... Che io ho tanti amici leghisti. Cioè, sono dei primati, praticamente. Sono una specie di scimmie. Sono delle scimmie, praticamente. No, scimmie l'hai detto io, te. Io Alessandro primo, cervello primo della chiesa autocefala. Quando tu tra due mesi troverai in giro tutti con il corona, dirai, ti renderò omaggio, ma non credo. Allora, coronavirus free non si ditta, sì. E dirai, ciao, facciamoci questa bevutina alla salute di Librandi, che ha delle idee. Adesso abbiamo il genio. Sono genio. È arrivato il genio. No, io sono uno che vuole sopravvivere, cerco di adattare le aziende. Dunque tu stai dicendo che sei sopravvissuto nonostante la Lombardia, cioè sei sopravvissuto, sì, nonostante i leghisti. Nonostante la Lombardia, cioè nonostante i leghisti sei sopravvissuto, diciamo. Nonostante i leghisti siamo sopravvissuti. Nonostante i leghisti. Roba incredibile. Te l'ho sempre detto, incredibile. No? Allora, ciao, bello. A presto. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Eccomi ragazzi, questo video lo devo fare per forza perché non posso non farlo. Dedicato a due testicoli. Questo si chiama Longoni. Questo si chiama Longoni. Che voglia di cazzo, mamma mia. Oh. Bruciani, anche qua in America restiamo sul pezzo. Fighe pelose sempre, hairy pussy everywhere. Mi raccomando, belle, pelose, non rasate mai, nessuna manutenzione. Vogliamo il nature, il natural, natural hairy pussy, sempre. No! Reed, ma quanto è bello chiavare con Mario Giordano in sottofondo e il suo Donato! Donato! Questo era un altro della Val Camonica, si sentiva dall'accento, eh! Questo è, capito? Questo è un video porno orientale che mi hanno mandato con squirt finale. Qui la cosa più comica sono queste voci. Che tu dici che tutto questo è incompatibile, dici? Tu dici che tutto questo è incompatibile? No, ma sono senza parole, non dico semplicemente che è mamma mia. Ma non è comica questa. Sono delle pecore, cosa sono? È una cosa. È un video porno, credo, giapponese. È una cosa drammatica. Cioè, tu dici che questa trasmissione, nella sua descrizione della realtà, non è compatibile. È impossibile, non riesco a capire veramente come sia possibile. Il generale Pappalardo, senti. Ecco, questo però per introdurre Pappalardo, vedi, ad esempio, il contesto è importante. Per introdurre Pappalardo, questo è anche fin troppo elegante, ad esempio. Il 30 maggio in tutte le città d'Italia, sì. E il 2 giugno a Roma, sì. Ci riuniremo, siamo in una dittatura palese, beh, evidente, no, ma... non ne possiamo più, reagiremo. No, ma senti questa, senti questa. Noi vi inviteremo a votare secondo, sì, un televoto. Eccolo. Televoto. A voi arriverà sul vostro cellulare la richiesta della Federazione della Libertà, perché voi possiate votare sul cellulare già una cosa, stasera e fino al 2 giugno per la fine di questo governo non eletto dal popolo, per l'istituzione di un'assemblea costituente, sì, per fare la nuova legge elettorale, sì, e andare a ottobre a nuove elezioni per avere un governo, un parlamento e un governo legittimo, la stampa della moneta nazionale, la lira antica, la lira italica, chiedo scusa, e il governo provvisorio. Ma ho capito bene, c'è un misto di cose, cioè il televoto, il televoto, il governo, il governo, il governo provvisorio, il governo, sì, provvisorio, le elezioni di un parlamento, il governo provvisorio, chi lo nomina il governo provvisorio? Sì, non si capite, le nuove elezioni. Con la nuova legge elettorale fatta da chi? Da chi? La legge elettorale. Tu anche perché lo segui ancora? E poi perché lo segui? Lira. Questo forse potrebbe piacere a Coso, no? Potrebbe, questo comunque, se ti arriva il messaggio che fa? Amo fatto. Ma chi si crede di essere? Ferruccio Parri? Ma, scusa, ma chi pensa di essere? Ma se ti arriva il messaggio, se ti arriva il messaggio. No, vado in procura. Vado in procura. Vado dai carabinieri e lo denuncio per molestie, stalking. No. Troverete tre caselle, a favore, contrario, astenuto. Questo voto sarà una potenza, perché voi potrete, con il televoto e venendo in piazza il 30 maggio in tutte le piazze d'Italia, mandare a casa questo governo dittatoriale. Il televoto di chi? No, però, scusa, non ho capito bene. Cioè, no, lui vuole fare il televoto facendo arrivare nei cellulari di chi, a nome di chi, una specie di televoto con tre scelte per mandare a caso. Mi sembra anche un metodo, insomma, dire, non siamo in una dittatura che proibisce queste cose. La dittatura di solito proibisce il televoto. Ma non lo so. No. Sì, ma aspetta. È il popolo un solo modo per reagire a questa dittatura con il voto. Vi invitiamo a votare. Dove? Nelle piazze. Il voto di che cosa? Con il televoto. Votate a milioni, no, due... perché solo così, cari amici, vinceremo. No, votate a milioni. Ma dove? Allora, sono due cose diverse, però, caro. Una cosa è la piazza, una cosa è il televoto. Non si... Il televoto di solito si fa nei io programmi. Credo che no. Nei programmi televisivi, a Sanremo, eccetera. Io credo che non abbia preso la pastiglia, la solita medicina che prende per l'umore. E se qualcuno ha meno coraggio, sì, e non viene il 2 giugno, venga il 3 giugno, prende il pullman il 3 giugno. Come il 3 giugno? Se ha paura, cioè, cosa c'è il 3? Perché noi rimarremo il 2 giugno in piazza e vi aspetteremo. La notte. Salvini se ne andrà, la notte. Ma noi rimarremo in piazza ad aspettarvi. Ma noi chi? Ma cosa uno aspetta? Chi aspetta? Conclusione. Ma è peggiorato, eh? Beh, è peggiorato. Un po' sì. Vergognatevi. Ma chi? Ciò che i carabinieri vanno a indagare dove vado io. No. Dopo che sono passato per quelle certe località, no. Ma non vi vergognate, ma chi? Ad andare ad accertare un generale come Antonio Pappalardo, che per voi ha fatto tanto come sindacalista, gli ho dato dignità. Come vi permettete di andare a controllare uno come Antonio Pappalardo? No, però ti posso dire che nessuno controlla. Posso dirti una cosa, io ho una certezza nella vita, anzi ho pochissime certezze nella vita, una ce n'ho: che nessuno controlla Pappalardo. Posso dirti, cioè, non c'è nessuna carabiniere, sì, nessuna indagine, sì, nulla di nulla che controlla il generale Pappalardo. Ho una sola certezza. Bisognerebbe invece dire che i medici dovrebbero controllare Pappalardo. Questo invece è l'altra frase. Tu dovresti completare la frase dicendo: nessuno controlla Pappalardo, i medici dovrebbero controllare. Questo lo so, però posso dirti una cosa: il peggioramento è evidente. Il peggioramento è evidente. Peggioramento non è evidente. Ti schieri su questo, mai, proprio, su questo ti do ragione. Lo vedremo da Del Debbio giovedì prossimo? No, lo vedremo da Del Debbio collegato. Ieri ho visto un bagnino, era collegato, certo, Del Debbio, meraviglioso, c'era un bagnino, certo, in tenuta da bagnino proprio. Certo, perché tu dici, come deve essere un bagnino vestito da bagnino? Certo, perché lì è mela mela pera pera. Mela mela pera pera. Scusa. No, deve essere vestito da bagnino, perché il pubblico deve sapere che è un bagnino, perché certo, lì è mela mela pera pera. Ma è normale, mela, scusa, mela, perché lo vidi già che cravatta il bagnino, pera, che protestava contro le ridicole leggi o restrizioni. Hai collegato dal quel bagnino lì, comunque benissimo, mela mela pera pera. Non si può collegare, che c'hai contro i bagnini? Cosa hai adesso contro i bagnini? Perché te la prendi con i bagnini? Non Marco nulla da contro Roma. I bagnini di per sé. Perché non possono andare in televisione? Calma. Allora, questo video qua è un video di un porno giapponese che mi hanno mandato oggi, in cui sostanzialmente queste signorine squirtano, ma fanno dei belati, cioè non... O è finto, oppure c'è un modo tutto giapponese o non so che cosa, perché coreano ti, ma, di godere. Mi hai chiesto perché ti, ma sei diventato l'hub, il ricettacolo di tutte queste cose. Perché ti mandano questo a te? Guarda, meglio ricevere queste cose qua che ricevere, che ne so, un report della Commissione Europea, non so su che cazzo è. Marco, ecco, da Roma, quello l'ho divertente. Ricevuto ad esempio, sì, Marco. Esatto. Marco, dimmi. Grandi ragazzi. Dimmi. Allora, io avevo chiamato alle 6. Ti giuro, Crux, stavo carico a pallettoni, cioè ero pure un po' brilletto, stavo veramente carico. Non mi ricordo un cazzo di quello che volevo dire, quindi a questo non ho capito. Punto... Spiega un attimo, mi sembra che ho scritto qua cassa integrazione prostitute, io ho una scritta... Sì, però devo dire una cosa a questo punto più importante, quella ci arriviamo, se mi solo un secondo. E volevo dare ragione completamente a Parenzo, che tra l'altro... Ma su dire, che cosa, scusa, su che... Sul discorso. Grazie. Che chi telefona a questa trasmissione non è una persona normale. È compreso te, allora. Certo. Compreso te. Me ne rendo anch'io conto. Ci sono delle piccole eccezioni, ovviamente. In un'ora ti assicuro che mi sono dimenticato pure come mi chiamo, perché ho sentito chi tutto. Sì, cioè, sì, ma è terribile. Questa trasmissione è terribile perché ti distrugge la mente, ti annichilisce, ti fa diventare un coglione. È molto grave, effettivamente. Anche a casa, io dopo la trasmissione torno a casa e parlo come alla radio. No, è terribile. Anche con i miei familiari, quando mi dice mi passi il pane, no, squirtare, basta, che fascista. È normale. È normale, è un lavaggio del cervello. Io temo che anche se tu dovessi mai avere qui Zagrebelsky, anche lui immediatamente, 20 minuti in attesa al telefono, diventerebbe purtroppo come quelli che chiamano qui. È terribile, è una cosa terribile quella che accade qua. Quelli che chiamano più di una volta. No, non ho capito, ragazzi, però adesso non puoi cascare. Adesso vedrete, questa qua è l'unica trasmissione in cui c'è uno che chiama dicendo che fanno schifo quelli che chiamano. Un co-conduttore, un conduttore che sostiene che ci sono delle porcherie inaudite, che la Confindustria dovrebbe sopprimere questa trasmissione. No, ma io è il decimo anno che partecipo. No, vabbè, ma è una follia quello che dite. Perché lo fate? Perché lo fate? Ma sei bipolare, sei bipolare. Comunque, posso dirti una cosa, che prima non abbiamo sottolineato una cosa di Librandi abbastanza grave che ha detto, cioè questo va sottolineato più volte. Cioè Librandi prima ha detto che sostanzialmente i leghisti sono dei sottosviluppati, cioè questo ha detto, cioè sono hanno il cervello primordiale, il cervello sostanzialmente da minus sapiens rispetto agli altri, un cervello primordiale. Questo è molto grave, è molto grave. Ciao Marco, ciao. Barisoni gay. Vabbè, questo adesso. Allora io ricordo, ragazzi, potete andare a rivedere la scena, a risentire la scena 2010, anzi risentire. Dennis Rodman intervenne in diretta in una radio della Florida al Jorge Sedano Show, 7 minuti di collegamento che divenne praticamente surreale, in cui l'ex giocatore dei Chicago Bulls fin da subito mise in imbarazzo il conduttore, addirittura lui in imbarazzo il conduttore. Praticamente una signorina, Teresa se non sbaglio, lo stava spompinando, questo è il punto. Grande diretta di 7 minuti, forse Chicago Bulls però. Alessandra da Bologna, vai. Pronto? Dimmi Alessandra, dimmi. Niente, volevo portare la testimonianza di un'altra donna che ha il pelo. Oh, benissimo, molto bene. Molto bene, direi che il dibattito si è avviato, un vecchio dibattito che noi abbiamo riavviato. Grazie al contributo di due studiose che la pensano diversamente sull'estinguersi di questa moda qui. Francesca da Roma, qui invece c'è Alessandra da Bologna di anni, scusami. Allora, io sono un po' stagionato, non ho 27 anni, ho 44. Beh, insomma, stagionato, adesso non esageriamo, 44 anni. Rispetto alla 27 anni. Beh, certo, non c'è dubbio, però tu hai il pelo florido, che tipo di pelo hai? Perché Francesca di prima aveva un pelo notevole, insomma, da quello meno. Che interesse ha tutto questo? Un interesse sociologico, un grande interesse sociologico. E se non lo capisci, per le nuove generazioni, le ragazze giovani non si devono depilare, è sbagliato, cioè deve essere nature. Cioè, io sono di questa. Cioè, ma tu che tipo di nature hai? Cioè, ogni tanto vai da un estetista a farti fare, che ne so, cioè i baffi, allora, o no, vai a curarti gli estremi, vai a curarti un po' l'inguine, vai a correggere per qualcosa. Il costume, perché io a differenza di Francesca mi metto il bikini, quindi comunque quello che esce lo tolgo. Dai. Dunque il tuo pelo non è, possiamo dire, non è incolto, diciamo. No, non è incoltissimo. Beh, però c'è. Però c'è nel senso che abbiamo dato questa notizia a borse chiuse del venerdì. C'è un pelo notevole, Alessandra, scusami, un pelo presente, un pelo che si vede, cioè una, sì, si vede, sì. Cioè anche folto da ma anche folto dal punto di vista, come dire, di spessore, oppure no, oppure rasi anche un po' lì, cioè, no, perché no lì tutto nature, libero, è tutto nature. Scusami, posso chiederti una cosa? Posso chiedere per chi vota lei alle elezioni? Cosa posso chiederglielo? Allora, seguendo molto Carlo Calenda con Azione. Bah, amico, io però fossi in Calenda farei una querela a questo punto. Io fossi nell'amico Carlo Calenda, perché Ricchetti non lo considererei. Ricchetti mi assista anche un po', cioè, però vabbè. Amico, Calenda per la testa, caro Ricchetti, qui vabbè, c'è da approfondire, vabbè. Qui c'è, c'è da entrare nella foresta, volendo usare, come dire, una metafora, no? Da entrare se vorrei che lei danneggiasse il movimento, la crescita del movimento calendiano, cioè. Esatto, non vorrei che questa sua telefonata. No, perché tu associ il fatto perché che io associo le porcherie, no, in generale, sì, la discussione, non l'oggetto, non l'oggetto in sé, chiariamo, io non entro mai nel merito di queste questioni. Cioè, tu ho dici una il mia fatto opinione. Che una chiami per dire che ha il pelo, esatto, per te non può votare Calenda, è una contraddizione in termini. Non entro neanche nel merito della questione. Lo faccio per le ragazze giovani. Beh, Alessandra, scusami, sì, tutta questa depilazione poi in realtà potrebbe anche non fare bene da tanti punti di vista. Però scusami Alessandra, non capisco una cosa velocemente, che è questa: i tuoi, tu hai un compagno, un fidanzato, sei single, com'è la questione? Io ho un compagno da parecchi anni, apprezza moltissimo, apprezza moltissimo. Sì, sì, sì, ma tutti quelli che ho avuto in generale apprezzano. Però tu dici ho 44 anni, però ragazzi, 44 anni è giovane, cioè io ne ho quasi 10 più mia di te. Mia coetanea, perfettamente mia coetanea. Sì, sono una coetanea di parenti. Il tuo compagno 76. Apprezza, tu che vita sessuale avete? Libero oppure una vita sessuale, diciamo, da monogami, diciamo? Abbastanza monogama, adesso lui non lo so. Scusi, era abbastanza, scusi. Effettivamente lascia intendere qualcosina. Sì o no? Abbastanza, non è una risposta. Pensiero è libero, poi dopo tu dici la fantasia, la fantasia è libera, diciamo, la fantasia. Poi delle volte, diciamo, capita, la verità, qualche volta qualche trombatina extra te la sei fatta, Alessandra, diciamola tutta, diciamola qui apertamente, facciamo questa confessione al tuo compagno. Magari è roba vecchia. Magari la lettera, già dopo mi separo, Beh, compagno in che senso? Cioè separazione, sei sposata? Non ho capito. No sono, sì, convivo, però insomma praticamente come un matrimonio. Comunque ragazzi, la cosa è questa: viva il pelo secondo Alessandra, naturalmente io dico viva la libertà e dico anche italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà.